Bujadova. È la sposa di Abagnava, dai. Io sto aspettando quanto. Come c'è Rauco? Ehi, vabbè, non si sa. Cose del periodo. Ah, così è. Oh, yeah, yeah. Speriamo se così va meglio. Lunga e tre ancora. E vabbè, e allora, ti ho buttato dalle tue parti dove sei andato a lavorare. Diciamo che non è piovuto né niente, tutto a posto, tutto sotto controllo. Io ho fatto un giretto, sono passato da Marcarino a portare anche quella trappa, rientrando sono arrivato a me fin come non ti va, mi stavo spogliando e nel frattempo ho acceso la radio, ho visto la portante. Ok, stavanti a presto al computer, tanto non c'era nessuno, dunque. Vabbè, verso mezzogiorno e mezza più o meno acceso. Sto guardando la televisione. Al computer, cosa faceva al computer? Stavo leggendo il giornale quotidiano, la Roma Sardegna, Corriere dello Sport, tutti i giornali sportivi, eccetera, eccetera. E poi anche un po' la musica, eccetera. Poi tutto. Ehi, ehi, già va bene. Questo giorno e mezzo lo giocava nessuno, il Milan che la gioca. Il Milan non lo so, il Chievo però non stavano giocando, infatti stavo ascoltando la radio, ma poi l'ho preso, non mi interessava più di tanto. Stasera vediamo alle 6. Noi siamo di turno alle 6 stasera. E già lo so, ma allora ne sei convinto che l'Inter è a pari del Napoli? Ne sei convinto? Hai visto che gioco che ha? Hai visto l'allenatore come ti rivolge Drutta? Hai visto? Guarda, l'Inter è un'ottima squadra, e la differenza tra il Napoli e l'Inter, premesso che il Napoli è il più forte, cioè perlomeno come gioco, anche se ieri c'è stato un pareggio, però l'Inter devo dire una cosa, che l'Inter è l'unica attenuante, sai qual è? Che non gioca nella settimana, gioca una volta a settimana, dunque il Napoli gioca ogni 3 giorni, l'Inter no. È probabilmente per quello che il Napoli non ce l'ha fatta, però come gioco spagnolo, però devo riconoscere che Spalletti l'ha saputa mettere in sesto l'Inter, e ancora non è niente, perché sono poche le partite che sono state fatte, Spalletti l'ha fatta sì. Avrà fatto se no in tutto tra campionato in tutto 15 partite più o meno, e l'ha sistemata bene, e più si va avanti più la sistemerà, c'è la temere anche l'Inter, guarda, no, non solo il Napoli, anche l'Inter c'è la temere. Giulio, io l'ho vista, il Napoli non ha fatto niente di più dell'Inter, anzi secondo il mio punto di vista l'Inter meritava di vincere, perché Paradura legittima, il suo portiere a Paradura legittima, capito? Il portiere di Napoli. A chi se no mi limito che non vedo più come è andata, ha giocato bene l'Inter, c'è una bellissima squadra. Non pensavo fosse così, io parlo da sportivo, capito? L'Inter era una bellissima squadra e soprattutto un allenatore con le palle, capito? Nel vero senso della parola, perché è un allenatore che ha saputo gestire bene la squadra, l'Inter con Pioli è una squadra al pascolo bravo, adesso c'ha gioco, c'ha attenzione, c'ha difesa, c'ha una bella difesa. Sì, senza dubbio, anche l'attacco, guarda che chi in forza, ne ha fatto qualche Napoli e forse qualcuno in più anche, per cui non credere che come organico l'Inter è forte, è quello che sto dicendo, ancora l'Inter non ha assimilato perfettamente il gioco di Spalletti, se noi dovessimo pensare questo, che l'Inter tra un po' di tempo sarà sicuramente una delle squadre candidate al titolo di campione d'Italia, non ci sono dubbi, questo sì, certo. Però il Napoli ha l'attenuante che il Napoli ha giocato mercoledì e dunque non si sono ripresi, Signe che non era al 100%, insomma ci sono delle attenuanti, però il Napoli secondo me come gioco è ancora fatto che ha la possibilità di recuperare almeno questi due punti che abbiamo perso per strada. È quello il discorso. Io spero che oggi a Udine faccia un risultato utile e che soprattutto venga a gioco, perché a me del risultato alla fin fine mi interessa o non mi interessa, è il gioco che mi sta preoccupando, il gioco, cioè abbiamo in attacco i migliori giocatori al mondo, hai capito? Cioè siamo a vedere di Higuain e di Dybala con Mandzukic, ma è possibile che tu giocatori hai muovato tutto Battiddi e ancora non sei sbloccato? Cosa si sblocca? Come ti ha fatto l'anno passato e si è sbloccato a metà campionato? Ma lo so io, cioè io rimango perplesso, no? L'Inter mi è piaciuta. Candreva ha fatto un partitone, D'Ambrosio non ne parliamo, Nagatomo sulla fascia ha giocato molto bene, cioè hanno veramente una grandissima difesa, molto bene. Koulibaly che proprio l'ha fatta rimane, è forse stanco, forse ha rischiato un pochino, ma l'Inter non ha rischiato niente, se vinceva per me l'Inter meritava di vincere, meritava di vincere. Poi il pareggio è stato buono a tutte e due, un punto ciascuno e va bene lo stesso. Però ti posso dire che il secondo posto l'Inter lo merita alla grande, lo merita alla grande, perché ho visto che ha veramente un bel gioco, forse Spalletti è riuscito a mettere in sesto un po' questo mosaico, no? Tutto a beige, tutti fasciato, e ti sto dicendo che è una bellissima squadra, a me piace vedere l'Inter giocare quest'anno, mi piace. Sì, è un gioco pratico che sta nel mezzo tra la tecnica e la forza fisica soprattutto, perché l'Inter è una squadra che ha molta forza fisica, per cui è in grado di sostenere qualsiasi avversario, per cui non ci sono dubbi. E quello che ti dicevo, Spalletti l'ha quadrata bene, dice, altro che se la quadrata. E tra un po' sarà ancora meglio, sicuramente, perché ancora loro stanno giocando, ma sono poche le partite. Un allenatore, il suo gioco lo dimostra anche nel tempo, no? E Spalletti l'ha dimostrato subito, l'ha dimostrato che ha saputo dare un gioco alla squadra, però lo perfezionerà sempre di più, questo non ci sono dubbi, perché se continua così deve stare attenti veramente per l'Inter, altro che. Ripeto, Napoli sì, vabbè, poteva anche prendere ieri, come poteva anche vincere ieri, il risultato è stato quello che è stato, però c'era l'attenuante che ha giocato mercoledì e dunque non si sono ripresi tutte le forze in pieno, e quello è l'Inter più riposata. Bisogna vedere se l'Inter gioca ogni tre giorni, se è forte come ha dimostrato di essere ieri, anche questo c'era da considerare. Mo vediamo, pallone tondo, però ti ripeto, ribadisco, bellissima squadra rispetto all'anno scorso che era un po' a Pascolo Bravo, quest'anno c'è un assestamento di gioco molto molto bello, passaggi molto stretti, i lanci sono precisi, una bella squadra, meritava di vincere, ma il pareggio l'ha meritato alla grande, non ha rubato assolutamente niente, ha giocato molto bene, considerando il fatto che era anche a Napoli, quindi mo vediamo. Il Milan, chi? Se il Milan sbaglia oggi, mi avrà detto mio milanista, eravamo al telefono, ho detto stai attento perché se il Milan sbaglia oggi Montella è a casa, Montella è a casa, capito? Perché il Milan è con questo gioco che hanno, questa cosa che hanno, bravissimi giocatori, ma non riesco a capire come mai non abbiano fatto risultati utili, perché alla fine i risultati utili non hanno fatto. Ma l'hanno fatto perché sono giocatori che non sono adatti l'uno all'altro, magari sono anche dei bravi giocatori, però in un certo contesto, non in un contesto così del Milan. La differenza è quella, ci sono dei giocatori che non sono adatti l'uno all'altro, cioè non c'è quel legame, diciamo, di squadra, non c'è quella collegabilità che ci deve essere, non c'è assolutamente, è una squadra che sta scollata così, un po' come la Juve, quest'anno la Juve si è scollata, perlomeno dal centrocampo in giù, e cominciando anche dal portiere, perché io ho molti dubbi anche per un po', anche se ancora continuano a dire che è il migliore del mondo, ma non è di Fantano Piccini cosa ha parato, e il portiere del Napoli che cosa ha parato, ma qui se l'ha messo, poi veniamo a dire che Buffon è il migliore del mondo, ma fatti a dire, dai, io non so con quali occhi guardano questa gente, quando li conosce le cose. Lascia perdere. Chi si è parlato ai due tempi che ha fatto Arnautovic e Buffon si ragogna, o chi si è parlato che ha fatto Reina si ragogna, Buffon riflessi, attenzione, ma stiamo scherzando, Buffon è arrivato, cioè la nazionale italiana deve capire che ci sono altri giocatori, altri portieri molto meglio di Buffon, come sono convinto, guarda, e oggi sicuramente lo farà a me un turnover, sicuramente non va di un turnover Allegri, mi parto come te, vedi che Buffon non gioca e gioca il secondo portiere, e l'altra volta che ha giocato ha fatto delle parate micidiali, delle parate bellissime con molta molta attenzione. Buffon, dico, non arrivi da un palo all'altro, che è un molto, cosa ci l'ha magnato la D'Amico, come ci l'ha magnato? Ci l'ha magnato la D'Amico, come te Allegri è succiato da Brangiolini, la stessa cosa. E infatti è tutto così. E poi io, a me non me lo sogno, nessuno della stessa, andato perché è stato per almeno un paio d'anni di seguito migliore del Buffon, loro dicono che il portiere più forte da 20 anni a questa parte. Era perché, aspetta, piano piano, che ce ne sono, e Neymar le ricordo a Rallari, vabbè adesso è fortunato, lo sta giocando del Bayern, e tanti altri giocatori, e tanti altri portieri. Lo stesso Zenga è fortissimo, lo stesso, il portiere Napoli è fortissimo, è un grande giocatore, un grande portiere, già ce l'ha dimostrato anche quando abbiamo giocato contro il Napoli, che ne ha parato di tutto, ha parato. Per cui non riesco a capire come si faccia a dire. Poi mi anche ieri, mi ha proprio ieri ha dichiarato Sarri, che andando vicino al video, al momento il video portiere del mondo. L'ha detto chiaramente Sarri, per cui non. Adesso Sarri non lo sto dicendo io, perché vedi bene che è quello che ho pensato già da qualche annetto io, mi convince sempre di più. Sì, ma sono d'accordo con te, come la stessa storia parlavo con mio fratello di Donnarumma. Donnarumma ha 18 anni, non ha esaltato troppo. A chi gli dico che prende Donnarumma, un ragazzo di 18 anni, portiere, con quella bravura che hanno detto che aveva, non li avrebbe presi, non li avrebbe assolutamente presi. E invece vanno, esaltano i bassoni, i giocatori per fare che cosa? Così hanno fatto con Dybala la stessa cosa. Capito? Grande responsabilità, numero uno della Juventus, 3 partite, 10 gol, e beh, e nessun rigolo va, se non tocca di palla, gira da Biudu. Infatti, da Dybala può essere anche un discreto giocatore, però Dybala quando lo marcano giocatori come si deve, non tocca pallone, non c'è da fare, è troppo debole fisicamente, è troppo medievino. La tecnica oggi va bene, è importante anche la tecnica, però oggi si gioca soprattutto sull'agonismo. È un giocatore che ha una certa fama, come è stata appioppata a Dybala, che addirittura l'hanno paragonato a Messi, eccetera, che non ha nemmeno le scarpe vecchie di Messi, non sono lì. Messi può giocare alla gamba, ed è più bravo di Dybala, questo bisogna riconoscerlo. Allora, ti stavo dicendo, oggi il gioco del calcio è basato soprattutto sul agonismo, sulla forza fisica principalmente, la tecnica anche, se hai anche la tecnica è il meglio, però è soprattutto in primo luogo il vigore fisico, è sempre bucato in terra, dai, e certo se lo lasciano correre, poi devo dire ancora una cosa, non è un giocatore che ha una velocità di profondità, ha la velocità dello stretto necessario, così nel tech, nel dribbling, no, non nemmeno nel tech, nel dribbling, però velocità di profondità non ne ha, dunque anche se gli fai i lanci, lui non arriverà mai prima del difensore, perché non è abbastanza veloce, ecco qual è il discorso. Anche quello c'è Giulio, c'è anche quello, però ti ripeto, non lo gioco, perché è veramente una cosa un po' così, vabbè, sarebbe andare a vedere giù, saremo a vedere. Ok, dai, io ti lascio che pronto il pranzo, ci sentiamo stasera, ok, tanto la partita è alle 6, quindi magari ci sentiamo, dai, prima che inizi la partita. Va bene, buon pranzo a te e famiglia, dai, ci aggiorniamo stasera giù. Ok, sì, stasera prima della partita ci sentiamo. Grazie, grazie a te, dai, buon pranzo a te e famiglia ugualmente. Alle prossime, e anch'io adesso scendo di tanto, mi ha giocato mio genio, per cui sento che siamo vicini alla, al pranzo. Ok, ciao qua, a stasera, dai. Ok, a stasera, ciao ciao. Arrivato, sì. Cla. Chi è? Julius. Julius. Dove? Sto controllando le stazionali. Sta pioggia che ha fatto, però tutto a posto. Ok, meglio così. Vediamo un po' qua, vediamo. Anche qua, stazionali. Ultime, veramente a posto anche qua, perlomeno lo strumentino qua dovrebbe essere preciso. Del 44. Del 44, sì. Sì, sì. Infatti io stavo confrontando quello con quello esterno della T230 ed è preciso. Ok, è quello ancora meglio, quello dovrebbe essere veramente a posto, ce lo credo. Quello della radio potrebbe anche variare, potrebbe, non è detto che varia, ma quello della T, ce lo credo che quello è giusto sia stato. Questo è perfetto. Quello di linea esterno, quello di linea sempre là, che infatti stavo guardando, è a posto, è quello, un bello strumento, lo strumento è cordatore ROS, metro watt, metro commutatore d'antenna, se non decido di su, la T230, mi ricordo, sono vivuriaco, più a comprare chi ci a comprare la radio. Diamo quello. Gli strumenti in linea di massima, se tu fai il calcolo, ma tu qualsiasi strumento dell'elettronica costano sempre di più in proporzione alla radio o al ricevitore, costano sempre di più, ma tutti gli strumenti, non solamente quelli da radio amatoria, ma addirittura quelli da radio tecnico o riparatori TV, eccetera, eccetera. Allucinante, allucinante. La linea del 430 e quella del 440, mi ricordo quella della T250, la collettore di linea del 140 e del 180, che usava anche la radio, allucinante. Questo costava ancora di più, perché questo è l'accordatore di linea del 940, veramente del 930, non del 940, del 930. E poi infatti no, tenuto, lavorato tutto, ho ottenuto l'accordatore. Va bene, hai visto lo sport? Sì, bel Milan, bello Bonucci, bravissimo, ha lasciato la squadra in 10 uomini, un grande giocatore hanno acquistato. Sì, sì, è bravo, è proprio bravo. Tu pensa che adesso è stato bravo oggi e sarà bravo per altre due partite anche, perché con la sospensione che ha avuto, con l'espulsione che ha avuto, dovrebbero essere due giornate, non una, due giornate di qualifica dovrebbe essere, soprattutto trattandosi del fatto che lui è capitano, per cui a meno che non lo vogliono graziare e gli danno solo una giornata, ma di solito per quella punizione che ha fatto dovrebbe essere due giornate di qualifica. Okay, dai. Ha ragione, mio fratello non è stato un buon acquisto, no? Boh. Poteva vincere la partita oggi, invece 10 uomini, 10 uomini col Genoa, andi voi andare, Genoa è forte, più mai rivasi logo pur. Io l'avrei mandato a casa a Montella, poi ci sono allenatori molto meglio di lui, sicuramente, guarda. Sì, ma l'errore iniziale società è il fatto che hanno preso Bonucci per farlo diventare capitano. Capitano di cosa? Se tu non hai mai giocato in quella squadra, certo, se ti metti da parte Buonaventura, l'altro, quello che non sta più giocando, quindi Montolivo, o ogni tanto gioca, o quello se ne dimentica di avere quel giocatore mira ogni tanto. E qualche altro anche. Ma come si fa? Capita, io poi metto Buonaventura, tanto per fare un esempio, io sento Buonaventura, mi sarei offeso sapendo che tu compri Bonucci e lo fai diventare capitano, quando lui non sa niente del Milan. Oh, io non riesco con quale criterio certe società fanno la squadra, sinceramente non lo capisco. Era tutto organizzato, hai citato un articolo, forse te l'hai fatto sfuggire, era tutto organizzato, perché quando Marotta gli ha detto che appunto lui lo sapeva già che era fuori dalla Juve, ok, lo volevano dare fuori all'estero, lui ha detto no, io all'estero non ci voglio andare col Milan, ok, vai col Milan, era tutto organizzato, capito? Lui è voluto andare al Milan perché sapeva cosa fare il capitano, e allora il capitano al Milan non era Montolivo. È stato sempre Montolivo. Quindi, che cosa siamo qua vedendo? Siamo qua vedendo di organizzazione a delinquere, a chi c'è qua, è un'associazione a delinquere, per conto mio. E appunto, è quello che sto dicendo, come fai tu a degradare un giocatore che è in seno a quella squadra da tanti anni, è l'ultimo arrivato, perché in effetti è l'ultimo arrivato, e non solo come il giocatore appena rientrante, ma qui mi sta dimostrando che anche essere l'ultimo quadro della ruota, lui, nonostante i 7-8 milioni d'anno che gli hanno dato, oltre alla faccia di capitano, Fabio Bonucci è uno dei più scarsi che c'è nel Milan fino a questo momento, sta facendo dei danni assurdi, tanto tutte le volte che gioca lui prende sempre qualche gol per errore suo, più di uno ne ha preso in questo campionato per errore suo, e poi adesso mi vai a fare questo fallo così dando una gomitata vicino all'occhio di quel giocatore, ma non è possibile, dai. Era fatta apposta, si vedeva che era fatta apposta, Maro è Maro, cado sempre Maro, capito? È stato sempre cattivo, maledetto, per colpa sua abbiamo preso la Champions, per colpa sua. Allo secondo tempo è entrata in squadra e molta, cioè non capivano niente dopo quello che era successo. Con un primo tempo di 1-1, finale del di Champions, sull'1-1, allucinante. Un disgraziato, maledetto, non posso vedere manco molto che se te la viene cotto pure da Lumina, abbiamo fatto il caldo più contento del mondo. Perché quelli per la Raga, il gol che ha preso con la Lazio, a cui prega l'ha pigliati, a cui preso io, poi ha dato la cui all'altro difensore, capito? Invece era lui che non ha seguito l'azione, perché è un mostro, è un cadavere, cosa? È un cadavere, non penso che è un cadavere. Uscì quando io avevo l'Italia, la matessi cosa, è un cadavere. Tu vado a pensare solo una cosa, stava giocando in 11, poi io ho fatto della partita di 11, in 11, e c'è la Bonucci. È uscito Bonucci, che cosa è cambiato? Nulla, nulla, nulla, nulla. Non è che ha subito solo perché ci mancava Bonucci. Praticamente è dal primissimo minuto, non c'è. Il Milan ha giocato in 10 dal primo minuto, non da quando l'hanno detenuto, da quando l'hanno espulso. Bonucci è un aino, perlomeno quest'anno è questo un aino, nel vero senso della parola. Sta solo facendo danno al Milan. E vedo allora cosa vogliamo fare. Io ti sto dicendo, avrei cambiato subito tattica. Capito? Se ve l'ha stato Gaiani, aveva già ciambato tattica, tranquillo, a chi a Montella te l'aveva mandato. No, non è una squadra organizzata, l'ho detto, te lo ripeto, io ho visto l'Inter molto ben organizzata, sia in campo che fuori dal campo, ma il Milan è una squadra di buffi. Sì, ma è così, io adesso non lo so. Se è capace che Berlusconi dice la sua, anche se ormai non ha più niente a che fare con Milan eccetera, ma sono sicuro che domani ci sarà qualche dichiarazione di Berlusconi a riguardo del Milan e di Bonucci. sicuro, in qualche giornale ci sarà sicuramente qualche dichiarazione, perché sta facendo proprio pena, proprio una vergogna, guarda, una vergogna. 7 milioni, 8 milioni mi sembra all'anno lo prende. Gli altri giocatori cosa dicono? Cazzo, per te questo ne prende 7-8. Io, Buonaventura, io Suso che Suso, sta vendendo molto ma molto più di lui. Laconi, Locatelli, anche quello, nonostante che è giovanissimo, quello sta vendendo più di Bonucci, Locatelli, ed è un pezzino, e non prende nemmeno la metà dello che prende di Bonucci. Che cutrone cos'è? Cutrone, lo stesso discorso, è un ragazzo, proprio giovane, eppure rende più di Bonucci. Lo stesso Andre Silva, anche lui, lo stesso discorso. Bonucci è proprio dicendo, è il giocatore più scadente che ha il Milan quest'anno, non è possibile. Però Cutrone è un buon esempio del secondo tempo. Infatti hai visto come ha cambiato la partita subito. Quando è entrato Cutrone, c'era più intesa. Non ne sto più capendo niente in questo calcio, la verità, proprio 0-0. Allora, vabbè, Demorano, tra vedi, è ora già, c'è 7:25, 23:24, ancora mezz'ora, poi come sarà nostra, vediamo cosa fa di Allegri, a vedere, si pone all'ovigliolo di Gosio, di Matteo Giovanni Napoli a centrocampo. Forse mette a marchissimo, ma non credo, però, perché appena vedi c'è dall'infortunio, però è stato convocato, vediamo un po' che cosa fa, ma che lì la piana c'è sicuramente sul tuo centrocampo, poi Ristain, Lugani, Bonucci, Alessandro, dovrebbe essere, a meno che non mette Adamoa sulla fascia sinistra, che ne so, boh. L'attacco di subito, si sa, Quadrado, mi parla, Manzo qui c'è i guai, adesso vediamo, io so solo che l'Udinese ha fatto 8 partite di campionato e ne ha preso 6, vediamo che non si rifaccia proprio oggi contro la Juventus, che non c'è da stare tanto tranquilli, visto considerato le condizioni della Juve. Cosa mangi una giavagogna? Secondo chi mette, secondo chi fa giocare, capito? Non è importante che non ci sia Matuidi, non è importante. L'importante è che lui faccia giocare al posto di Sturaro, faccia giocare a Dani Costa, capito? Lui deve essere titolare quello, e basta. Non venuto da qua, non c'è niente da fare, la fascia è la sua, punto e basta. Poi vuole alternare Lichtsteiner con Quadrado, non me ne affrutti nulla, sono due bravi giocatori, ma Daniel Costa deve essere già titolare, perché gli ha già dimostrato, quindi è inutile che dopo sia giochi di Garruzzo. Sì, in effetti sì, Daniel Costa secondo me dovrebbe giocare sempre, l'ultimo minuto. Il problema è, no, Solano non gioca, Solano è infortunato, il Buruetto, capita, figurati se non si infortunava qualcuno questa settimana in allenamento, tra l'altro, ma se la vergogna, ma di cosa sono fatti questi giocatori, di burro sono fatti, di cosa sono fatti, ma è preparato la triste, che cosa, come li stanno riducendo questi giocatori? Dice Kurt, ma cosa gol che mi vediamo, gol che quando giocavo pallone, mazziate che non finivano mai, giocavo meglio di prima, pure zuffo, per dire no. E questa gente, ragazzi, c'è un piccolo cosettino da niente, subito infortunato, 15 giorni, 3 settimane, un mese di riposo, fuori rosa, ma pagati a fior di milioni, che è una cosa impressionante, adoro il solito. È una vergogna veramente, anche se l'hanno ammaccato, non ti preoccupare che non gioca oggi. E vabbè, ci mancherebbe altro. Marchigio cosa l'ha convocata a fare? A fare cosa? A fare numero, a fare panchina. giocatore da far giocare Marchisio, che un mese e mezzo che non si allena, ma in fondo dove vuole andare? Oggi Pillimbo contro l'Udinese, fatto un casino di Gesù Cristo, mando un'email alla, al centro sportivo della Juventus, a cui di tiro vola. Se pensi che l'Udinese non ha pagato più una partita che ho pagato più di Juve, pacca e dai. Se pensi che l'Udinese oggi deve vincere anche molto bene, se vuole incominciare a, a risvegliarsi. E speriamo che oggi sia una giornata buona anche per i guai, che riesca finalmente a sbloccarsi, ma a sbloccarsi come si deve, però no così a, a, a tentalo, per carità. Oh, yeah. Ripeto, quella è, l'Udinese gioca fisicamente molto forte oggi perché ha bisogno di punti e se sono otto partite ne ha già preso 6, si può immaginare che razza di squadra è, però oggi quella si, si batte col coltello tra i denti e non ci sono dubbi, magari è capace che sia fortuna qualche altro giocatore anche, e chi lo sa, staremo a vedere, speriamo di no. Wow, non ci voglio pensare. Chi è l'uomo di punta di, dell'Udinese? Forse Fofana, non lo so, o sarà Fofana, forse uno dei migliori, o addirittura il migliore, gli altri sono tutti mezze calzette, però queste mezze calzette alle volte ti fanno la sorpresa, speriamo che non sia così. E una mezza calzetta di cosa? Amico l'Udinese c'è una bella squadra, forse un po' sfortunata, è partita male, ma non è una squadretta da niente. Beh, ma a confronto con squadre come quella della Juve, che sono delle mezze calzette, almeno stanno ai numeri. Se poi se ne tolgono l'anima oggi giocando è un altro discorso, compreso l'allenatore del Neri, cos'è? Ma che dai. Mi ricordo quando ce l'ha proprio la Juve, lui ambiente, lui anche su muro. Mamma mia, che allenatore, che allenatore odioso che avevamo, peggio di Ossana era. Lui era un po' egoisso, lascia aperto, era un polpo, lo so. Che campionato strano, no, si perde l'Udinese, perché l'Udinese ha fatto la cosa, la disdetta subito a premio, non ha mai dubbio sport. Ma io no, chiaro di via, per carità, ma comunque, diciamo che le speranze sono buone, perlomeno io ci credo, però non ci metto la mano sul fuoco, questo è ovvio. Adesso staremo a vedere e che Dio sia davanti buona, perché la prossima partita mi sembra che sia il Milan anche, quando è capace che si risveglia proprio contro la Juve, che sta ringraziati. Domenica prossima mi sembra che, domenica prossima alle 15 o sabato, se non mi ricordo, Juventus Milan a Torino, chissà. Fino a forse anni rimacchi proprio la Juve, finisce qua perché poi perdono, no? In continuazione o pareggiano, poi vanno a fare una partita dove la Juve è sicura di essere all'altezza di poterla vincere, e invece la Belli o la pareggia, no? Quanta fattura Lazio, capito? Lazio è saputo, andate al ritorno, un pesce, anche io calcoleggio sempre la Coppa Italia, no? Sì, la Lazio è un'ottima squadra comunque, una bella squadra, con un allenatore competente e tutto, la Lazio in gamba, ha dei giocatori in gamba, altro che tipo Milinkovic, sono giocatori straordinari, sono, altro che quelli immobili, poi non ne parliamo, al momento è l'attaccante più in forma che c'è in tutta la Serie A, c'è in tutta l'Europa. Sono giocatori straordinari da aspettare veramente, non è certo lui meglio, capita, però dai, no, perché c'è la sangue anche nella Juventus, con le piccole squadrette ha sempre avuto delle difficoltà e delle grosse difficoltà tante volte, e non è molto lontano l'ultima volta che l'Udinese ha vinto con la Juve, mi sembra che due anni fa 3-1 mi sembra che avevano battuto, se ricordo bene, tutto all'inizio del campionato, dai, nelle prime partite, ma si abbia avuto 3-1. Ma speriamo bene, dai. Non voglio essere così pessimista oggi. Ma vediamo, vediamo. Mi sono questi di chi. Povero Cagliari oggi. Povero Cagliari, l'otto e mezzo più che Cagliari con la Lazio. A Roma. Lazio Cagliari. Minimo minimo ne piglia 3 o 4. Anche Cagliari è messo male, è molto messo male. Troppe partite ha perso anche Cagliari. No, non è possibile, dai. Non è possibile. Non è una questione di allenatori, è una questione di uomini lì. Purtroppo siamo messi male. In Sardegna come calcio siamo messi male veramente. Una l'avevamo qua in Sardegna, per carità. Poi lo parliamo da torre. Guarda, la cosa che io non attivo nemmeno minimamente, ma so che sta sempre perdendo, ultima classifica, una cosa impressionante. Mamma mia, che disastro, io mi metto a ridere per non arrabbiarmi, per la torre, perlomeno. Poi per il Cagliari lo sappiamo, il Cagliari è quella che è, gioca in Serie A, sono tutte altre squadre, è un altro discorso. Il momento della Torres, io, Cagliari Torres, figurati, che ho ragazzo, figurati tu, io non seguo la Torres, è dai tempi di Mario Piga, ha fatto il conto, e ci abito dall'85 qua, con lo stadio a 500 metri, capito? Non l'ho più seguita, prima ci andavo sempre ogni domenica quando la Torres era Serie C. E ho rischiato di fare anche la B, però poi non l'ho seguita più, assolutamente, non le seguo io, le squadre di Sassari non le seguo, non mi interessa, so che la Teodolce è una bella squadra, però non le seguo, non mi interessa, ho promesso a mia figlia che Cagliari Juventus, devo andare a vedermi la Juventus io. Andiamo non amare di là, non ci sono mai andato, mai a vedere una partita di Juventus. Voglio andare a vederla dal vivo a Cagliari, però senza andare a Torino, Torino è troppo lontano, a Cagliari. Voglio andare a vederla, quest'anno vado a vederla. Ok, no, io già l'ho vista diverse volte, l'ho vista, sono andato diverse volte a Cagliari, sono andato anche a Torino, l'avevo vista, anche a Genova. No, e quando la squadra gioca bene gli ammirita, ma è diventata una spesa, non saranno queste centinaia di euro che si spendono per andare a vedere una partita della Juve, anche fuori dalla Sardegna per dire. Però dà fastidio, guarda, dà fastidio, tu mi dici quello del Sassari non li seguo le squadre. Io nemmeno io li seguo molto, ma so che la Torres è nei battifugli della classifica, altrettanto la Teodolce, anche se è di categoria superiore alla Torres, è proprio l'ultima classifica la Teodolce. Infatti abbiamo esonerato anche Sanna, l'allenatore, e si è preso un altro, uno che si è già fatto, mi sembra, via come allenatore della Teodolce. Andando discretamente la Zacchera, sta andando discretamente, e anche Lubbia non sta andando male, dai, sono in ottima posizione in classifica, stanno andando bene, ma non più di tanto. Quello che mi dà fastidio a me, sempre mi ha dato fastidio, io avevo giurato che non sarei andato più alla Torre fin quando non sarebbe salita in Serie B, almeno in Serie B, perché tutte le squadre che hanno giocato contro la Torre, parlo di tantissime squadre, addirittura ai tempi del Foggia, quando giocavano in Foggia, tanto per darti un'idea, no? Parecchi anni fa, non salirò mai più la Torre, e così è stato, non ci sono mai più saliti, mai più, e mai più ci andrò, assolutamente. Tutte sono riuscite a salire di categoria, e oltre alla C, alla B, anche la A, tante squadre che hanno giocato con la Torre sono salite in Serie A. A noi Sassarini, la Torres non ci ha dato mai la soddisfazione di vedere un campionato di Serie A quarta, una vergogna. Infatti è quello il problema. Ma che ora c'ho? Io 6-20. 10 e meno 20, almeno un quarto stacco. Vado a vedere la formazione, vado a vedere cosa fende chi su imbecille. C'è proprio, come ti dite, Gosso, c'è proprio da stare allegri. Sempre da stare allegri, tu sei allegro, tu sei impassibile, sempre, sempre sorridente. Che tu di Bornese, ignorantone che non è altro. Ignorantone a livello calcistico, magari con una sola, non è così ignorante, indubbiamente. Quello che anche qua non ha di buono, mica non. Non si è arrabbiata la mente, ma tutto solamente. Solo che quando si arrabbia si arrabbia troppo, come ha fatto quest'anno appena passato con i vari Bonucci, con i vari Higuain, con i vari Michelina, con qualche volta anche con Steiner, perché Steiner vabbè pur si tenta ma che lo cambia eccetera, ha ragione. Però per dirti no, lui deve essere più filosofo, deve essere più autoritario soprattutto con la squadra. Io sono convinto, tu non mi crederai, ma io sono convinto che i giocatori non lo possono vedere, perlomeno una parte della Juve dei giocatori parlo, non può vedere a me, sono più che convinto. L'altra radio c'ho PMR acceso e uscì è venuto da Lavano, sono venuto da Lavano, ma che un po' a dirigenza, ma mi stava dicendo l'altro giorno mio genero che praticamente doveva arrivare Del Piero, c'era un cambio, Nefed non so cosa, che ruolo prendeva e Del Piero prendeva il ruolo di Nefed. Ma non credo, perché Agnelli non l'ha trattato bene Del Piero, è andato via anche con un po' di malumore Del Piero, speriamo che lo prenda, però ho la sensazione che non faranno quel cambio, anzi sono più convinto che se dovesse lasciare il Nefed, almeno quando si inizia il campionato, e non adesso è il campionato in corso, magari sarà quel morto di Buffon che prenderà il suo posto, sicuramente. Ma non è perché avevo firmato per giocare in un campionato non so che cosa, contro il fisico mi sembra, qualcosa del genere, non mi ricordo bene, ma tempo fa, che faceva riprendeva a giocare. Aveva firmato con una squadra straniera e dopo si giocava addirittura il figlio, però poi non ho più seguito la questione, non ho più capito più niente, anche perché non ho più visto nessun articolo sul giornale. Vabbè, Del Piero ha finito in Turchia, era finito e poi si è ritirato e basta. No, proprio Nefed rimane a Juventus però come procuratore e Del Piero doveva fare il preparatore tecnico, non so, sicuramente come la Roma si è tenuta a tutti, dirigente, il signor Buffon, che è proprio un buffone, capito? Farà il preparatore dei portieri, farà qualche cosa, ma tu gli te lo gomolo, ormai questa gente che finisce di giocare e poi rimane con la stessa squadra, lascia stare a tutti che è romano, ha dato il cuore a Roma, è una vita con la Roma e merita di avere il ruolo che ha di dirigente, ma l'altri, ma dove vuoi andare? Quindi vuoi andare? È facile, no? Poi non è che è facile fare dirigente, così ci vuole una certa esperienza, perché uno a fare il giocatore, l'altro a fare il dirigente, non è semplice. Liverpool aveva questo problema che non riescono a inserirsi e integrarsi perfettamente in società, rimanere nei diritti, non manca pure l'isola, ma non basta che abbiamo la Marotta che al braccino corto prendendo, forse per ordine della società, questo non lo so, però mi sa che sarà proprio così. Speriamo bene, adesso vediamo se a gennaio riesce a prendere qualche difensore, perché ce n'è bisogno, ce n'è proprio bisogno, c'è questo Emre Can, quello del Liverpool, mi sembra, di John Craig, con Liverpool, dovrebbe essere buono quello. E a quanto sembra, a parametro zero lo dovrebbe prendere la Juve, però si sta inserendo anche in qualche altra squadra. Ma che sono degradati dice la Juve, ma quando mai non glielo puoi fare subito il contratto per la gente? Fammi fermare subito, vai, capita, vai a casa sua anche quando sono addormentati, ragazzi, dai, ti fai firmare il contratto. Perché se ti inserisce un'altra squadra e ti offre magari 1 milione in più all'anno, te lo prendono di nuovo, come hanno sempre fatto, perché fanno così, alla Juve glielo prendono, forse per una miseria in più del cartello per voi, per una miseria attualmente tra virgolette, che sono un benzina, però per dirti, no, se quando uomo le offre magari 4-5 milioni, arriva lì ne offre 6 o ne offre 7, e allora è chiaro che quello cambia idea per i soldi. Dovrebbe svegliarsi un po' di più la dirigenza della Juve, secondo me. Sì, è vero, da lontano. Lontano da che cosa, Giulietta, io mi stacco, lascio tutto acceso qua, ma vedo forse si stanno già allenando, sono già in campo, voglio vedere la formazione, che ora è? Sono quasi meno 10, dai, ci sentiamo dopo, magari tra il primo e il secondo tempo, dai, già lascio tutto acceso qua, ok? Ok, e anch'io adesso scendo giù e acceso anch'io, dai, la voglio guardare nella televisione grande, va bene, a dopo qua, ciao! Ciao Giulio, ciao Capridue, io te l'ho detto, dammi una risposta perché la vogliono passare quella che ti ho detto, quella è revisionata l'anno scorso, e quella che hai preso tu può essere che non sia revisionata, e te lascia a piedi anche quella con i condensatori, quella che ti ho detto io è tutta revisionata, da là alla Z, perfetta, capito, revisionata l'anno scorso, con tanto di garanzia. Quindi dammi notizie perché c'è uno che lavora qua a Sassari. Va bene, ci sentiamo che sto andando a vedere la partita, vai, a dopo. No, stai uscendo male, stai uscendo basso del radio. No, non stai uscendo bene. Adesso ti ho sentito un po' meglio. Ok, fammi sapere già, capito? Fammi sapere, se no la do qua a Sassari che c'è uno che lavora, dai. Ci sentiamo dopo, ciao. Ci sono, ma non mi cercate perché sta iniziando la partita. Ci sentiamo dopo per tutti. Ciao. No, Eugenio, sta iniziando la partita, vai. Mi voglio guardare la Juve e poi più tardi riprendo, vai. Ciao, buona domenica. Ciao Vittù. Ti ho sentito, me lo accendi, abbiamo detto ma mi sola, che cavolo. Ehi, ciao Vittù, stavo provando qua. Come si sente questa radio? Mi sembra che sia troppo volume, c'è, no? No, si sente benissimo. Io come ti arrivo lì? Ma guardi, il tuo segnale purtroppo devo dire che è bassissimo, però la radio è bella. Come è basso? Quanto è basso? Vabbè, sto uscendo con l'omologato, quindi. Ma guarda, 2 6 di segnale. La radio però è bella. E vabbè, l'importante è mi senti di radio. No, il segnale anche se è basso non importa, anche se è 1 o 2. Quando devi avere una radio buona, pacifica, però naturalmente tu direi, ma se devi arrivare a Porto Torre o a Itteri o cosa, magari non ci arrivi per dirti. Ho capito. Vabbè. Bene, là, che mi sentano un po' la gente, perché non posso alzare niente qua, perché questo è così, è l'omologato. Vabbè, ma l'antenna, se è una buona antenna, non è che non c'entra niente, tutto è dell'antenna. Se sei basso di radio, di segnale, perché l'antenna, evidentemente, che antenna è? E bassa è l'antenna, la colpa dell'antenna che è bassa. Vabbè, non ce la puoi mettere in un terrazzo, in qualche cosa, è basso quel palazzo. Non posso fare nulla, anzi, è già tanto che è lì, se no non dovrei averne nulla. Ma come non deve averne? Ma stai scherzando? Allora uno, se tu hai la licenza di modulare, poi mettere l'antenna nel tetto, poi bisogna vedere, adesso non so come sono messe le situazioni in quelle circostanze, ma uno nell'antenna nel tetto può metterla, a prescindere anche se è condominiale. L'importante è che l'autorizzazione per modulare, capito, l'autorizzazione e la licenza, se no non lo so io come si è messo. Già è così, già ti spiegherò di persona. Ah, allora ci vuole che uno rompa le balle, ho capito tutto adesso, dai. Ma l'importante è sentirsi, dai. Vabbè, è chiaro. No, è triste perché uno, non lo so, ha una radio, paga quello che deve pagare, anche se è una miseria, per dire, e non ha la soddisfazione di poter farsi una accendere la radio per parlare con quelli peggio, perché se magari c'è proprio in ballo vicino. Ma per caso di tutto quello che è televisore, non lo so, io adesso non so come si è messo, ma c'è qualcuno che è geloso. Quello che hai detto tu, quindi devo usare questo. E allora deve essere un deficiente. Più che deficiente lo definirei un miserabile, se non vuole che tu metta un'antenna non lo so, ma che sia regolare o cose del genere, ma uno con l'antenna fuori casa, le antenne si mettono nei tetti, non, adesso non so come ce l'avrai lì, tu, ma senz'altro non sei neanche regolare così. E già ne parliamo di persona, là. Tanto non posso parlare qua. Io ho capito, e comunque era tutto a posto. Ma dimmi una cosa, una curiosità così, ma non ho sentito più a Sergio. Ma com'è questa storia? Non hai sentito più? No, ma aspetta, non si chiama Sergio, no? Non mi ricordo come si chiamava. Ti ricordi mi avevi accompagnato tu in via Sotto da quell'amico? Non mi ricordo come si chiama, Giarolo, no, boh. Sì, c'era un anno che quello lì non entra più, quell'amico mio. Ah, boh, è tutto conto suo quello. Capito, no, io più non l'ho più sentita. Gli ho anche fatto sapere, non riuscivo a comunicare per telefono con lui e non mi ha risposto mai. Vabbè, già ne parliamo di persona, va. Io capito, no, perché l'ho cercato e no, mi c'ero stato per fare un lavoretto al computer e mi ha detto che si doveva trasferire perché lì non andava più bene, non lo so perché cosa, e si doveva trasferire, ma poi si è trasferito, io ho chiamato il telefono e il telefono non rispondeva. No, manco io non riesco più a telefonare. Oh, era interessante perché mi aveva fatto un lavoro sul computer e ero contentissimo, mi avevi portato tu. Però dopo ho avuto un altro problema, sono andato a cercarlo, sparito la circolazione. Quanto ne sai tu, ne so io. Anch'io non riesco a rintracciarlo. E adesso non mi ricordo come si chiamava, se era Sergio o cose del genere. Un nome strano comunque. Ma tu ce l'avevi nell'amicizia del corso, perché aveva una figura diversa dalla. Non aveva la sua faccia, aveva messo una figura. E me lo ricordo che c'era, però io non gli ho chiesto mai l'amicizia. E per quello che siamo spariti. Non ti so rispondere. Sei capa, ma non so se è qua in questa. Perché lo cerco adesso? Purtroppo è sparito e no. E non so che fa di. Capito? E vabbè, mettiamoci una pietra sopra, ma stavo dicendo, sei solo qua in radio? Sono solo, acceso adesso, infatti sto chiudendo perché devo fare cosa. Già ci sentiamo, Vittorio, da, alle prossime. Non c'è problema, da anche io, no, ero in ascolto, l'ho acceso, non troviamo chi c'è, stavo facendo sotto la testa di Tola, ecco perché ti ho riconosciuto alla vocalità. Vabbè, alle prossime, Natale, dai, tante cose belle, ciao. Grazie, anche a te. Ciao Marco. Yeah. c'era Claudio e Giulio, stavamo parlando di partite e poi ho detto me la voglio guardare, ma partita c'era oggi? Ah, non lo so. Deve essere c'era partita, allora hanno chiuso. Bene, bene, io sono tutto a dolori, fanno male le articolazioni delle caviglie, soprattutto. Non lo so se per questa corrente, non lo so perché. Ma che vuoi che ti dica? Può darsi che... Speriamo che non hai preso quel cazzo di influenza che dice che va bene. Sì, aspetta che chiude la finestra, c'è un freddo, una corrente alle gambe. Se... Anche per quello mi vengono i dolori. Un attimo. Sì. Ecco fatto. Comunque sì, già ho anche un po' di fresco perché i pantaloni sono sottili. Mi dovrei mettere le calze per stare meglio. Ora, ora, sale poco sta lancetta, ma tutto normale ti sembra? Con un modulo? A me sì. Allora sì, dai. E beh, d'altronde questo è anche, c'è il trimmer chiuso della M, quindi ho chiuso, poi in questo momento quello di sotto ha acceso il caminetto, che c'ha, diciamo, la tavernetta staccata dal palazzo, più in là, stava arrivando un fumo, e allora ho chiuso anche per quello, dai. Non credo entrerà nessuno oggi perché sono già le 6 e alle 6 mi pare se ne siano andati loro o giù di lì, forse anche prima. Se c'è partita, quanto dura? Un'ora e mezza più l'intervallo, capito? Vabbè, io non sono uscito nemmeno oggi, tanto lo vendavo, anche oggi un po' di sonno. Sono lento, ma di solito mi viene così quando comincio a pigliarmi qualche influenzina, qualche raffreddore. Solo che io non sto mai andando da nessuna parte, cioè non vado in mezzo al pubblico. Sto uscendo poco, quindi l'influenza da chi me la son presa, magari è roba che c'è nell'aria. Vorrei che viaggi. Sì, poi ero anche irrequieto nel letto. Irrequieto. Mi stavo sempre girando da una parte all'altra, non avevo pace. Perciò mi fanno male le gambe, la parte bassa delle gambe. E mi sa che mi metto anche le calze. Poi c'ho una barba, non me la faccio da giorni, c'ho una barba che sembra un naufrago. Infatti per fare una barba così lunga il rasoio elettrico non ce la fa. Allora prima devo tagliare l'eccesso di barba col taglia capelli e poi posso usare il rasoio elettrico. Figurati. Comunque ti conviene colpirti, si va in freddo, dappati a chi mi è brutta questa influenza. Mettiti le calze, qualcosa di più pesante. Non fare al freddo che l'occhio, Marco. No, adesso comunque non c'è più la corrente. Adesso come ho chiuso già sta molto meglio. Però mi piacerebbe avere le calze. Proprio, mi sa che me le metto, dai, faccio in fretta. Sì, già sono qui. Beh, adesso sto meglio, dai. Ecco qua, sono in pantofole e ho messo le calze non troppo grosse, ma vanno bene. Adesso un'altra cosa. Te credo. Sono spariti tutti e prima c'era gente in PMR anche. Tipo Gio Maria, Bacchisio, insomma. Adesso non c'è nessuno, le PMR, le surventi credo, ho fatto scansione poc'anzi, un attimo prima di chiamare qua, stanno tutti a vedere la partita, ma pare strano. Tutti i tifosi sono, per quello . Vabbè, a me invece non, più di tanto me, guardavo giusto la Juve perché... Nonno era juventino, quindi anche mamma simpatizza più per la Juve, ma non ne sa niente di calcio lei, e tantomeno io lo guardo ogni tanto quando è in chiaro. Ecco qua, avevano lanciato tuoni e fulmini, cioè vento forte, da vento di burrasca. C'era sulla Nuova di ieri una cosa della protezione civile, un'allerta meteo, venti forti, piogge temporali, e beh, indisso. Sì, stavamo per piovendo era. Oh, perché ha piovuto? Io non mi sono accorto di niente. Sì, altro che noi. No, no, non me ne sono accorto proprio. Vabbè. Poi sai, affacciandomi prima, vedevo tutto asciutto, ho detto, qua, non ha fatto niente. Però tuoni, io nulla, no. No, neanche io mi sono accorto stamattina che era tutto bagnato. Stava piovendo appena, perché stava terminando di piovere. Eia, però vento, non ce n'è vento forte come avevano detto. Ogni volta che la protezione civile dà un annuncio di allerta meteo, di solito poi sono bagianate, capito? Ma meglio così, se no le antenne volano, mi. Ah? Le antenne volano se viene vento, come dico io. E la mia me la può buttare, che è pittina. Speriamo che non disturbi con questi filtri. Per il momento non è venuto nessuno. Eia. Tu avevi già usato lo ZG, no? Ma con lo ZG disturbavi? Sì, io ti credo, pure omologato, mi disturbavo ugualmente. Però io dico, uno non si può mettere i problemi degli altri. Se hanno televisioni messi male, con pianti si arrangiano. Possono urlare quanto vogliono. E vabbè, giustamente poi... Se tua moglie si incavola, perché insomma, baracchino attira a rogne, mi, tutti ci siamo passati, tutti quanti. E vabbè, ma per quello anche sto usando l'omologato io, Natalino, non ne voglio casini, capito? Gente mi dice disturbo, questo omologato è buono, più di così non si può fare. Invece magari con l'Omega, lì già si lamentavano, e sicuramente butta fuori armoniche, eccetera. Però in macchina è una forza della natura. Quando lo mettevo in macchina, io non mi mettevo problemi miei. Quando lo dovevo mettere, lo mettevo, tanto non ne sanno le forze dell'ordine. Che sia omologato o no, non ne sanno. Era bello per parlare con Sassari quando andavo pronto, adesso arrivavo sempre bene, perché c'avevo 40 watt di porti modulata, no? Lo so, lo mettevi a manetta e lui pompava forte, non c'era bisogno manco di lineare, con questi tipi di modulazione per sanare il peso. Di solito mettevo 2 watt di portante muta, tutto il resto lo dava modulato. Quello va bene se uno abita in zone isolate, capito, che non c'ha vicini, che si lamenta. Che odore di fumo, un po' di odore di fumo è entrato, vabbè, ho chiuso infatti in fretta. Se no si riempie. Comunque stava andando più a sinistra il fumo, non verso di noi, sta andando più a sinistra, dall'altra parte del palazzo. Ma dico, non è nemmeno un inverno pieno a mettere il caminetto. È esagerato anche. Vabbè, lui lo fa per arrostire, sai, mette roba sul caminetto a arrostire. E affumica noi però. E allora no, non è per quello che l'accende. Tu ridocchi la Iana e via, beh, non mi inviti? No, non ci andrei, no. Non ci andrei per niente a mangiare. Ma è storia lunga, dai. Storia lunga. Se uno ve li vuol far levare tutto, perché non puoi mettere un caminetto a 4 metri dal balcone, sono pochi i 4 metri. E poi c'è anche una specie di barbecue con fumaiola, le compri da, sono prefabbricati, li compri da Bricoman, è una specie specie di zappa dove tu metti il braciere, così un barbecue, però c'ha il fumaiolo, capito? Affumicare il palazzo non è corretto, infatti vabbè, c'è gente che glielo vuol far togliere e secondo come va in futuro aderisco anch'io, capito? Ci facciamo levare tutto. Tanto a me di questi vicini non mi ha tenuta. Buongiorno, buonasera, chi vuol salutare? Chi non saluta, buon viaggio. Oggi è venuto Lello, quello di Urbia, è venuto, gli ho fatto vedere quella piccolina, ho detto prenditi il porto d'arma che poi non so a chi lasciarle questa roba qua, gli ho detto. E lasciala a me. Se tu non te ne prendi il porto d'armi. Ma è la detenzione, non vale, solo la detenzione. No, che quando ti prendi la detenzione, siccome è uscita questa legge a seguito della legge antiterrorismo, che devi presentare due certificati, a questo punto fai prima a prenderti il porto d'armi. Perché senza certificati medici non te ne fanno detenere neanche adesso. È un casino. Lo so. No, no, sto scherzando io, no? Armi vere in casa non me ne servono a me, noi siamo le poveracce, a noi che ci rapina a noi. Insomma ci lasciano 100 euro se vengono qua. E cosa c'entra? Anch'io sono un poveraccio, ma io andavo e sparavo al campo. Adesso mi fa male la gamba, da quando mi fa male la gamba non ci sono più andato, no. Manco iscritto mi sono quest'anno. Iniziavano a settembre le iscrizioni, e vabbè, quando c'ho tempo ci vado, e che mi senta bene pure, se no, perché non è quel tiro statico che fanno al tirassegno. Lo so, ma non puoi fare una terapia per la gamba? Non lo so, qualche terapia non c'è? I dolori così, cos'è l'osso, muscoli, non so che parte sia interessata, elettroforesi, non lo so cosa, e beh ci sarà una terapia per far passare il dolore, no? Tanto non avevi niente di rotto tu. No, non mi sono rotto niente, però questo dolore, mamma mia, da quando sono caduto all'ufficio, che stavo uscendo dall'ufficio di collocamento, adesso mi si è svegliato e non avevo più nulla da lavoro, ho anche lavorato e tutto, invece adesso mi si è svegliato questo cavolo del dolore, ohia, e poi non posso prendere antidolorifici tipo occhi, nulla. Adesso mi sto cambiando il medico, domani vado all'INAM e mi cambio il medico e gli dico cosa vuol subigliare. Si porta le cartelle cliniche e tutto, perché non ne posso prendere gli antidolorifici. Bisogna prendere qualcosa che non vada contro la cardiaspirina. Ma come mai? Sei allergico o cosa? No, è perché prendo quella cardiaspirina io per diluire il sangue, no? Però se prendo un antidolorifico cambia i poteri della cardiaspirina, mi fa danno. Ma detto non prenderne assolutamente, a vedere se ero matto, ma adesso. Addirittura, sì. E volgare aspirina poi, Emmy. Ma tu riesci a accorgerti se è il muscolo che fa male o l'osso? L'osso è. Sarà qualche artrosi che mi è venuta a seguito di quella caduta, pure. E adesso come è cambiato il tempo mi si è svegliato il dolore. Sì, ma un dolore, guarda, non piangevo perché per la vergogna. Ho anche vergogna a uscire col baccolo. E vabbè, ma se è necessario. Può sì che ci fosse anche una leggera inclinatura, come dire, una microfrattura, una cosa invisibile. Per esempio una volta a me, in garage, quando avevo la moto un po' più grossa, no? Mi stava cadendo, io per reggerla, per non farla cadere, mi si è girato il polso sinistro e secondo me lì all'osso, perché toccando tuttora ha una sensazione strana. Cosa stavo dicendo? Secondo me mi ha fatto una piccola inclinazione all'osso, come una micro, una distorsione, come la voglio chiamare. E quando faceva più freddo mi si risvegliava, ma era poco il dolore, appena appena quando facevo. Aspetta che. Come faccio a levare qua? Ecco, abbassare, se no non capisco niente. Mi si risvegliava con un po' con l'umidità, col freddo, ma era una cosa minima, non faceva male così. Caspita, te fa un bel male. Ecco, un attimo il break registrato e che è pittiva. Si rubruva con la stradina, non mai dicevo mentire. Se lo sapete vicino anche per alzarmi dalla sedia, devo mettere il tacco, lo sai che... Poi a me, quando mi sono spaventato, perché non mi rispondeva la gamba quando sono caduto. Ah, pure. Avanti break. Campo, buonasera. Massimiliano, provate il controllo di radio. Eccellente. 915 radio 5. Come amplificazione, va bene, va. Sì, non è troppa. È abbastanza leggera, però è limpida, limpida. Campa. La sera sta lì com'è? Dico che altrettanto. Veramente buona la radio, va. Sto provando questo diavoletto rosso là. Ah, cappa. E bel microfono. Esci bene con quello lì. Va bene, ok, va. Esci qui, troppo forte se ti avvicini. Ok, riprendi Marco. Ma non sarà il Rod Devil? Yes. Oh, esce abbastanza bene, mi. Io ho avuto quello con la griglia tonda, cromata, ma faceva schifo. Secondo me era malfunzionante, l'ho comprato agli Stati Uniti. Brutto, brutto, brutto proprio, gracchiante, metallico. Quello in confronto, caspita. No, vabbè, questo non ha la griglia cromata, ce l'ha nera. Proprio quello che dici tu, là, che c'ha lo slider per aumentare la radio da microfono. Ehi, sì, il Rod Devil in confronto esce meglio. Esce meglio, io l'ho sentito anche su internet. Vabbè, dipende dai baracchini, su qualcuno è più metallico, su qualcuno è meno metallico. Però per adesso è limpido. E a quanto ce l'hai l'amplificazione? Guarda, è meno di metà. Oh, vuoi provare a manetta, per curiosità? No, manetta mi sa che innesca, aspetta. Allora. Ora, ora. Così sto aumentando, eh? No, non innesca, se spegni... Non innesca, ancora no. Allora, così è leggermente più di metà. Oppa. Ma tu ti stai autoascoltando? Aumenta, aumenta. Via Claudio, ma c'è la partita oggi? Sì, è finito il primo tempo. Sì, sta innescando Massimiliano. Ma non è che bisogna chiudere per l'ascolto? Cosa stai usando? Quello là. No, ti ho detto, devi mettere una colonnina esterna, se no non metto i piedi. Ok, per l'ascolto non chiude, se no chiudi l'ecco. Ascolta, invece è così. E vanno la mano, senza nulla? No, no, no, no, no, no. Devi mettere com'era, come te l'ho dato io, lo dovevi lasciare, devi inserirla una colonnina esterna, se tu la inserisci a colonnina esterna elimini per la scorta e non hai problemi. E non ne ho colonnina esterna. Ora, ora, ora, ora. 1, 2, 3. Ora, ora, ora, ora, ora, 1, 2, 3, prova. Così com'è? Sta innescando, c'è rientro. Così c'è rientro? È in metallica così, devi metterla come era prima. Così, dai, così va bene. Sì, devo lasciare così. Se no, per usare quella radio ti ho detto, devi metterci una colonnina esterna. Io l'ho scoperto così per caso, capito? Una colonnina esterna ti elimina per l'ascolto, non hai problemi, non hai rientri e non hai niente. Buonasera a tutti, sì, c'è la partita, Marco, finito il primo tempo, quindi ne ho approfittato a entrare a salutarvi un minuto. Via, un attimo, mi ero spostato. E che partita è, Claudio? Udinese Juventus, alle 6 hanno iniziato. Per adesso 0-0. No, adesso sta vincendo la Juve 2-1, però sta giocando in 10 perché hanno buttato fuori a Mandzukic. Quindi Buffon ha fatto due parate strepitose, oggi deve essere in forma, anche se non lascia via 2-2. Sì, ho sentito ne stavo parlando male di Buffon, ma io in passato già l'ho visto sempre parare bene. Certo, quando è impossibile fermare la palla, non è un robotto, è un uomo. Beh, oggi deve essere in forma, ha fatto due belle parate. E quindi Massimiliano? E quindi qua si lavora. KK. E lì devi mettere una colonia esterna. Tutta la trattativa che vai, non riesci a farti una toppa all'altra esterna. Io ce l'avevo, tu non mi hai detto niente che ti serviva, l'ho dato a Valerio per la macchina. E vabbè, pazienza, lo prenderò per la parte, adesso non ne ho colonia esterna, se no l'avrei fatto. Ma tu a quella radio se le metti la colonia esterna è una favola, perché puoi aumentare quello che vuoi e non hai neanche disturbo all'interno di casa, niente, capito? Perché io non la potevo usare, ho dovuto così provandoti ci ha messo la colonia esterna per come si sente, non lo sapevo neanche, mi ha eliminato il parlascolto e quindi andava di lusso, capito? Sì, anche perché io adesso la sto usando la metà di Michigan, capito? In quella maniera là Michigan io ce l'avevo la manetta, capito? Non disturbava, non distorceva, chi disturba è il rientro della cosa del parlascolto, capito? E vabbè, io non nasce, nasce una ne ho, ne avevo due e una l'ho data, se no te l'avrei data una, esotica. Non so, qua dentro l'armadio se c'è qualcosa di colonnine di computer, devo vedere. Ok, avanti Marco, fai girare. Io faccio entrare il brecco direttamente, avanti. Mamma mia. Che valore qua! Ma perché gridi cazzo? Perché gridi? Mi stai facendo sordo? Perché gridi? E ma adesso si sente però. Poco fa, adesso si sente. Fai così Capri, non è questione di allontanarti, devi abbassare i micchini. Fai così Capri, compareggia il radio, la buia, quando arrivini non ne funziona. Compra roba seria, da gente seria, cosa... E finini nella pazzeria di là. Avanti, chi c'è? Anche Natalino. Sì, sono qui. Ah, io saluto a Capri e mi allontano, sentiamo dopo al limite. Ma Giulio ha detto qualcosa? Che sta riprendendo la partita o cosa? Giulio? Che dolore qua! Ciao a tutti! Ehi, guarda, c'è aperto. Poi c'è Venganacci a Tagira. Però, due belle parate di Buffon, dai. Oggi va in forma. Questo Mando che ci non lo capisco, si fa espellere così. Cazzo, ti ha ammonito, stai zitto, cosa rompi le palle, no? Invece... Vabbè, lasciamo aperto. Una delusione totale, dai. Facciamo girare avanti Marco. Eia, ciao Giulio. Ma lo sai che i calciatori sono pieni di testosterone, quindi devono sempre ribattere all'arbitro e si mettono faccia a faccia, no? Quello si buria e lo manda fuori. 3 ne ha fatto parate, 3, claro, 2, 3 ne ha fatto, decisive tutti e tre. L'ultima con la mano. Vabbè, lasciamo lo massimo fate invece. Tanto questa è una partita molto a rischio, è una partita da pareggio, se non anche da vittoria per l'Udinese, perché noi siamo in 10 e non riusciamo a coprire, inutile che faccia il 4-3-2, non riusciamo a coprire. Mandzukic era troppo indispensabile, troppo per la partita di oggi. Invece, vabbè, siamo aperti. Avanti, Capri 2, riprendi. Sì, Massimiliano, ci sentiamo dopo allora. Due stelle, appartamento. Ti do anche quello di sull'appartamento, guarda, non mi interessa. E ti lascio anche tutte le antenne. Buonasera, sì, vabbè, in vera di comprare, sì, compra, che già va bene, vieni a Sassari che già ti ospitiamo, noi siamo molto ospitali qua, per cui non ci sono problemi, fai come ti ha detto Claudio, porta di 130.000 euro e tu sei a posto, non devi pensare a pensare alle antenne, perché è tutto preparato, anche il banco ti lascia, vero qua? Tutto, vi lascio anche la sala quadri, tutto, lui deve solo mettere il radio, perché posto già ce n'è qua per mettere il radio, non hai bisogno di tenerle in vetrina, capito? Le puoi esporre tutte, ti lascio le antenne, non sto scherzando, tutte te le lascio, tutte, così come sono, io stacco solo i PL e mi porto via le radio, basta. Tu dici alla tua sorella, viene qua con la pila e sei a posto, questa è 95 metri quadri la casa, capito? Quindi, però attento che ce ne sono 370 sopra, quindi vedi tu cosa vuoi fare. A 370 metri quadri sopra. Parla piano Claudio, sei tutto mezzo strappando. Parla piano. Adesso tu c'era uno, amici, che mi sono rotto le palle, da quando l'ho ritirata è un casino, allora aspetta un attimo, vediamo un pochino così, ecco qua, così dovrebbe andare ancora bene. Ah, neanche uno ce l'ho, amici, che roba allucinante. Infatti, non avevo capito nemmeno io, cos'era, 95 giù e 70 su, così è? Sì, 95 giù e 70 su. Sto sentendo i radioamatori a 446.081 e loro sono a 430.100. Mi stanno entrando diretti proprio con me, come se fossero in quella frequenza. Sì, anche qua, ieri come l'altra volta, qua no. Quindi deve essere una spuria proprio che ti arriva diretta all'apparato. Sì, sicuramente così, vabbè, portatevino qui io, è un giocattolo, per cui non c'è da meravigliarsi, è un tantino più del walkie talkie, per cui è normale che entri, lo vai. Ma per dirti, no, ma li sento come se fossero in quella frequenza lì, che canale 7 del PMR, sì, vabbè, dai, non è un problema. Bene, bene, avanti qua. Scappa, ok, va bene. Niente, dai. Marco, così meglio va bene così? Sì, perché quando parli più forte, almeno, prova a parlare più forte, come stavi parlando prima con Capri. Non dovrebbe strappare, dai. Boh, non lo so. Ce l'ho uno, amici, è a uno. Ho detto a Capri, adesso sollevo un pochettino la voce. Dite alla tua sorella, sei d'accordo? Capito? Problemi non ce ne sono. Tanto in vendita, c'è anche il cartello fuori, non sto scherzando. Se la vuole, no, non problema. Non accetto scambi, non accetto compromessi. Mi giuro di Napoli per ultimarmi l'altra. Capito mi hai? Non sono dietro di te, capito? Con le corna puntate verso di te sono, dietro di te. Sono ancora più alto di Antonello Barracuda. No, sopra. Zona Literai. Certo che sì. C'è già mia figlia lì, quindi stai attento, che tra non molto arrivo anche io. e ti sagameggio l'antenna, te la taglio in due, capito? Te la taglio in due. Comprando lì, già un anno. C'ha paura Ciami, oh Giulio, paura Ciami, hai visto? Prima ha buttato la l'esca, vengo a Sassa, ricompro, faccio, però non lo sa che io sono già lì. Oh Gianni, ma guarda, guarda che quello che ti sta dicendo ti succede veramente, quando viene lì l'antenna te la piega, questo è fuori discussione. Per cui stai attento, fai da bravo, se no rimani anche senza l'antenna. Mi prendi Gianni? Che è esterno, questo che è interno me lo porto via, capito? Tanto io ce li ho già nuove, pronte a montare le antenne, capito? Però stai attento perché sono dietro di te, non ho fretta, ma quando sarà ricordati che ci sono io lì, dillo Antonello che l'ha vista dove sono, Antonello Barracuda, dille a me dove sono e poi mi dai la risposta. Giulio, sta iniziando la partita. Marco, sto strappando? No, adesso no. Prima, quando parlavi forte, sì. Infatti non capivo bene cosa dicevi. Ok, sta iniziando la partita, buona visione, dai. Non vi dico... se no, perde la Juve. Non vi dico nulla. Zeta pendaccio, sto scendendo anch'io, dai. Anch'io con la bella partita. Ciao, ciao a tutti, riprendo forse dopo, quando finisce la partita. Le 8 meno un quarto, meno 10, una cosa del genere. Ciao Giulio, ciao Claudio, buona partita. Ciao Natali, ok Natali, mi sono accorto. Ok? Ehi. Va bene, vai avanti così, tranquillo, e poi aspettiamo un tizio. Poi ricordi quella roba, vedetela con Giulio e vedi un pochino di metterla a posto, dai. Dai Marco, lì, ci sentiamo dopo, dai. Ok, ti lascio in compagnia di Gianni e della Greffa, ci sentiamo dopo, ok? Dai, se non sto trappando lo lascio così, è meno di uno il Mickey Gain del 430, allucinante, meno di uno. Mentre prima lo tenevo a 4, guarda. Allucinante, riprendi. Sì, prima te l'ho detto, stavi strappando, non capivo, mi era sembrato di aver capito 95 metri quadri, ma capito, va bene, adesso migliore. Non dico niente, dai, se no guai, se no vi pindaccio. Ma te ne vai, dai, ci sentiamo dopo, riprendi Capri. Non è possibile, non è possibile qua, 2-2. Non mi dire Giulio, hanno pareggiato, ho sentito 2-2, ma non ho manco detto niente. Non è possibile, basta, non le guardo più, pacca ne dai. Ma davvero hanno fatto 2-2? Sì, 2-2, è pareggiato adesso. E poi gioco qua, adesso vediamo cosa dice il VAR. Io non ho parlato, Già, non ci stiamo dando la colpa, là. Confermato il gol, porca miseria. Allora, attenzione, Gigi. Che è avanti? Tu pieno, sono andati a vedere la partita, Claudio, e coso, come si dice, Giulio? Guarda, c'è Natalino, c'è Capri 2, però sei pazzo di radio, Copiato? Oh, Natalino, ma tu l'hai sentito a Gianni? A chi Gianni? Tu più rum, non l'hai sentito, l'ha chiamato, era basso di radio. No, non l'ho sentito perché sono andato ad aprire che è tornata mia moglie per portare il cane, a pizza. E beh, Gianni, doppio rum, sparito. Eia, c'è Natalino, me. Era andato a aprire, non ti ha sentito, dai. Sei basso di radio già, come vai? Sì, ma è basso. È basso, Natalino non ti sente manco. Io lo sento, cosa non lo sento? Ciao Natalino. Ciao già. E purtroppo non stavo entrando in decisione perché questa è sera, questa è la sera. Quindi non posso entrare. Io alle 9:15 non ci piace nessuno. Lo so, noi alle 8:30 andiamo via. C'era anche Capri 2, però già, fai qualcosa alla radio, non è la solita radio, come mai? Perché la sto usando un altro apparecchio, Marco. Ah, ma omologato? Freia. Aspetta, che so, va. Giù. Attenzione Marco Condor, ascolti il doppio rum Capri. Eia, adesso va bene. Ciao Poponio, e non sei uscito oggi? No, capirà, sono uscito sì, ma 5 minuti nemmeno, sono sceso giù, ho andato a mangiare Giampiero e sono rientrato. Ho finito adesso. Sono venuto il giorno a casa. E io lo stesso, mi fanno male anche le caviglie, le gambe, non lo so, forse il freddo, c'è freddo, i pantaloni sono sottili, poi ho dormito strano, mi giravo nel letto 10.000 volte, va, deve essere che c'è quell'influenza in arrivo, o quantomeno un'infreddatura. Sì, senz'altro sarà così. Ciao anche a te Gianni, salutoni, ben sentito. Il tempo è cambiato, tutta un'ora, c'è freddo adesso, c'è freddo fuori, figurati. Ciao Alessio, ben sentito anche a te. Pensa, ieri con le maniche corte e oggi ben bel freddo. Ebbene Natalì, la lingua è perso, parla di qualcosa, ci dovrebbe essere Capri 2 ancora o no? Non lo so. Io comunque ho fatto andare mia moglie col cane, ma accuso così tranquillo. La sera l'ho portata lì, capito? Ehi, per mia moglie ho risolto tutto. Adesso devo andare al cazzo domani e all'INAM a cambiarmi il medico. Quanto il traditore è entrato? Eia, quel traditore di Pomponio che va dal nemico. Vabbè, oramai l'ho considerato un farfallone io, c'ha le ali, c'ha, capito? Sta sempre volando da un canale all'altro. Che bastardo. Ridi tu, ridi già. E allora, Antonella lì c'è un farfallone. Lui vola da un canale all'altro, capito? Invece di stare qua con gli amici. Sto scherzando naturalmente. Ciao, sono entrato a salutare a Gianni che lo da un po' che non lo sentivo. Ciao Gianni. Ci sentiamo dopo che c'è la partita, vai. Ciao Gianni. Purtroppo sono sempre di sera. Già me l'hai detto, poi quando lo dici tu non c'è più nessuno, noi fino alle 8:30 ci siamo, poi una volta che andiamo a cenare non entriamo più, capito? Va bene, dai, ci sentiamo dopo ragazzi se ci siete, ciao! Ciao Claudio, ciao! Ciao. Ciao. Oh, buon. Comunque la radio scaricato loro, qual è il problema? Ciò quello davanti, quello dietro e tutto ciò per le metà cento. Andà bene, Catarino, quindi non sei uscito, Natalia, via freddo. Ui, beati voi che potete aumentare, io con questa monovatta non posso aumentare un tubo. Nemmeno io 4 watt. Qui due adesso com'è la radio? Lo stesso, avrò 4 watt. Aspetta, c'è Gianni che chiama, avanti. Sì, HP2, la radio è aumentata adesso. Com'è? Nova. 7 radio 5 a pompa. Stefano, uno di quelli, mi ha deciso di apparecchio. Me l'ha bestemmiato Marco un giorno. Quando è durato Marco? Un'ora. Stavo parlando tranquillamente, il cervello è tutto controllato, piglia e se ne scende la potenza a zero. Non trasmetteva più. Ed era in pratica la ventola, non si è agganciata la ventola ed è partito la parte dei finali. Tutto lì. Ma di quale? Marco, quello di Stefano che aveva apprezzato la sera, tu mi hai detto che adesso ti incendia, cazzo, quanto è durato? Un'ora e mezza, un urlato tranquillo, dopo che hai cominciato piano per abbassarsi la potenza, perché non usciva più? E poi è andato in tilt in ricezione, si era bruciato un tessuto stabilizzatore per la ricezione, infatti non riceveva tutto fuori frequenza, un casino era. Servono a nulla i 757 vecchi, non bisogna mai prenderne. Una volta che prendo l'umidità, ciao e buonanotte, ci devi buttare. Avanti Marco. Oh, non me lo ricordo, ma cosa hai detto, il B507? No, il 757 Gixi che mi aveva dato Stefano, ti ricordi? E lo stavo provando qua a casa, e tu hai detto, adesso vedrai che ti si incendia stasera. Un'ora e mezza avevo parlato, te lo ricordi? Un po' lì che non riuscivo più di segnare il radio, incendiato la parte finale, perché non si agganciava la ventola. In pratica è partito il circuito che della parte finale. Sai quanto viene quella a fare? Solo la scheda di quello lì. Mi sembra, se non mi ricordo male, 70-80 euro viene a seconda mano. Deve solamente togliere la parte dei finali dove c'è la ventola, che è tutto preso intero, il collega la spinottiera e c'è il nuovo apparecchio funzionando. C'è su internet, c'è un sacco, 70 euro mi sembra che vengono, una cosa del genere, tutta completa, te la danno. Tu apri le 757, sopra c'è dove c'è la parte dei finali, c'è una parte metallica, c'è dove c'è la parte totale di lo stampato con i finali e c'è la sfilottiera, non fai altro che togliere quello lì e togli quella e della compri nuova, basta, tutto lì. Assieme a fianco allo chassis, adesso se lo vedo te lo faccio vedere, se lo porto te lo faccio vedere, basta che apri la parte di sopra, ti dico, questa qui è la parte di finale, ho fatto che staccarla, la ordini su internet e te la prendi nuova e te lo cambi tu stesso. Mi parte di funzione la ventola, evidentemente la ventola non ti ha funzionato e ti ha fatto quell'effetto lì, come ha fregato a me, ha fregato pure a te. D'accordo, ok, avanti, riprenditela Marco. Io non so manco di cosa stavate parlando, ovviamente per me è arabo. Gianni, riprendi. Adesso non ci aiutano più le cose, si cambiano le schede direttamente, complete, ci prende il pezzo, ho fatto il pezzo di attaccare lo spirottino e fatto il giugno. Adesso è quello, Antonio, se è un'altra cosa, per 70 euro per me. No, è quella, sto dicendo io, è il 757 GX, la parte finale ce l'ha separata, meno male, dallo stampato, quindi viene bene a toglierlo il pezzo e poi lo cambia. Me l'ha fatto anche a me, quando non funziona la ventola, immediatamente i finali scaldano un mese e dopo una volta che scalda poi si bruciano. Se non mi ricordo male monta come finale un 1969 come pilota. Il problema è la ventola, perché se la ventola non funziona c'è qualche anomalia, hai capito? Evidentemente vuoi... non passa la corrente, non dà la tensione, questo non lo so, comunque sia è quello, la ventola proprio dove c'è il finale, capito? Vabbè, penso che se ne trova non è magari se parte tutto che fa andare la ventola è tutto lì dove c'è il finale, tutto agganciato al finale, la ventola proprio agganciata dove c'è il finale, lì arriva direttamente l'alimentazione, capito? Perché io l'avevo smontato, me l'avevo accorto la notte di questo fatto qua, addirittura io l'avevo smontato, poi l'ho asciugata la ventola con un fondo, ma non c'è stato nulla da fare, ormai era fottuto la parte dei finali e basta, era tutto lì, e quindi ce l'ha tirato quell'apparecchio ancora lì a casa sua, deve ancora ritirarselo Stefano, ce l'ha ancora lì da riparare, sono purtroppo apparecchi che sono molto molto delicati quelli, basta o niente, si fa tutto, sono belli come apparecchi, la verità, perché sono belli, però bisogna stare molto attenti, se non senti la ventola funziona immediatamente spegni l'apparecchio e portalo a controllare. Vai, non servono un cazzo quegli apparecchi, cazzo scivolano come coso di frequenza, mamma mia, cucci cazzo gli apparecchi disgraziati, proprio visti sono disgraziati, di tutto. Ma io lo so che riusciva veramente bene, Marco già se lo ricorda, per come stavo uscendo con il microfono normale riuscivo veramente bene, come il Kenwood più o meno. Capito? Già non scivolava. L'FT, il coso 7B, quello già scivola, cazzo. Il 250 un pochettino, perché deve scaldare, una volta che arriva oppure il Sommerkamp, la stessa identica cosa, quello che c'è Mario Manser, anche quello scivolava, lo devi stare sempre spostandoti ogni 4 ore a 20 minuti. E che questo è tutto amplificato. E abbassa il mic che appena, anzi no, metti il processore che l'hai disinserito, ecco adesso solleva il mic key. E adesso va bene, è perfetto. Gianni. Gianni, cosa è sparito? Avanti Marco. Gianni, non hai radio? Ho detto che non mi sento bene, che devo avere un po' di influenza. Mi ascolti o no? Capio. Allora siamo in due. Boh. Io ho questo... mi fanno male le caviglie, un po' le articolazioni basse, poi un po' di, non lo so, leggero mal di testa. Adesso ho mangiato, mi sta anche nauseando leggermente. Oppure sia l'influenza proprio, ma pazienza. Mi sento questa stanchezza sposta a testa, a dosso, come c'è il flusso? La stessa cosa. Questo è varato. Infatti mi sono con il cazzo, però mi sa che mai anche di pure a vita, perché c'ho caldo. E se preso freddo, logico. Già è così. Io sono tornato a sera in maglietta a cozza, dopodiché la porta di casa c'erano più due finestre di fronte a porta di tutte e due a bicchi, balia buon in faccio, sono andato con la scopa e la usavo tutti e due. Cazzo, ogni volta che viene quella via, la vado alle scale, prende e apre tutto, e quando fa vento, sotto la porta in pratica mi passa l'aria, fino a arrivare dove c'è il gabinetto del salone, e passa un freddo da crepare, passa. Tutti dicono dopo che l'apre, per aiutare chiude la stavola. Una stavolta me la mette, dice no, almeno una la lasciare aperta. Raggio, biliardo, perché? E perché si sento gli odori? Che cazzo si sente gli odori? Ma che ha detto non cucinare il fritto lì, gli ho detto, scusi, Se state cucinando pesce, cosa vuole? Io non gli ho mai detto niente, gli ho detto, perché sento il pesce che a me mi fa schifo, ho detto le sardine così. A me lo chiedo, mi invita a mangiarle. Ma allora non ti fa schifo, sono l'odore, così è. Andale. Natale, riprendi. Io riprendo, vi saluto tutti che me ne sto andando a cenare, da. Che non mi sento bene neanche io. Ci sentiamo alle prossime, da. Ciao Natale, mi sa che è Marco Condor che ha corteggiato a tutti. Beh, chi lo sa, ci voleva vaccinare mamma. Solo che deve fare in fretta, perché sta cominciando a avere l'exploit questa influenza. Adesso che arriva il freddo, mamma mia. Purtroppo bisogna carrarsela, bisogna tenersela se viene. Le precauzioni. Già dura poco questo freddo, fa poco c'è il nuovo caldo, non ti preoccupare, fa due settimane, vedrai, sono a 25 gradi. Si ha fatto la stazzina da notte e poi ha finito lì. Sì, abbiamo maestrale, no? Il problema è quello, maestrale o scirocco, o maestrale, sempre quello abbiamo ovviamente quest'anno. Dopodiché qualche volta un po' di acqua e bu, di altro non si è visto. Marco. Avanti. Ehi, tu hai mai sentito parlare di questa terra di bu? Sì, parlano spesso, bruciano mondezza che poi sprigiona diossina, interrano rifiuti tossici che poi fanno dei fumi anche, quella lì. Mi hanno detto che a Sassari ci sono delle frutte e verdure che offrono questa frutta che della terra di bu, che costa poco perché di questa terra di bu, ma lo stavo dicendo all'ospedale la frutta. Bella roba, me. Allora è bella che inquinata. Guarda, allora il fruttivendolo fianco a me non è della terra di fuoco perché non è caro. No, ecco qua non si può fare nulla, di dire nulla, però te lo posso dire per fiscale quando vediamo. Qual è la fiscale? Mandamelo in WhatsApp, no? Cuovo, quindi Natalia, se stai andando, ciao, buona serata, buona cena, anch'io però, io invece ho mangiato prima e non lo so, un po' scombussolato sono, la vedo male. Comunque stanotte aspirina a nastro, come un po' difesa, sempre che serva, dai. Grazie, me la chiedo subito, visto che sono a stomaco pieno. L'aspirina, gliela chiedo a mamma, riprendete voi, dai, vai Capri 2. Già ti sento Capri 2, avanti, che ti do il segnale. Sempre Santiago 7 e Radio 5, non va bene. Ma Ottavio adesso è solo Apri. Quindi a Ottavio l'ho pensata quella dove abitava tuo padre. Ah, Vabbè, per lui è tanto che va bene, no? Non sono stato perché ci sono i cavi fuori, nel muro, in paese, due gancetti attacchi, come fanno i cosi, i romini, e c'è la luce gratis dell'Ener. Ringraziamo a Marco, se no parliamo solo noi. Marco! Ascolti, Marco, se farà da lungo, mi riprendi, Ari. Mi ti sta prendendo la bastiglia, Marco, senz'altro. È già freddo. Anzi, c'è freddo, sa. Se passi in luoghi dove c'è aria, per dire, perché sta in piano di scale qua, sei molto, cazzo. C'è un'aria, qui io la prendo in pieno il maestrale qua. Eccomi. Sei rientrato. Eia, mi sono preso l'aspirina. L'aspirina a 500 mg, mi pare. Per fortuna ce l'avevamo. Perché comunque il freddo alle gambe ce l'ho sempre. C'è freddo, c'è freddo. Io non ho acceso nulla, né stufa né niente. Poi vabbè, dai, già. Casomai mi metto una copertina sulle gambe, mi come gli anziani. In pantofole ci sono già, mi manca la copertina sulle gambe. Vieni a casa, ti ho risposto di fola. C'è caldo da te già, così mi hai detto. Io qua sto con le finestre aperte, e non ne ho di freddo. Questo non sto freddo, non lo so. Io la sala la lascio sempre aperta. Se la camera va bene, la cameretta faccio la parte, per aiutare io la lascio aperta. Adesso lo vai a andare a letto. Ho letto il messaggio, non è zona che frequento, dai. Me l'ha detto un'infermiera dell'ospedale, di non andarci più. Beh, meglio saperlo. Quando mai uno riesce a vendere, ma c'è la gente che ci va. Perché vedete che stanno 99 centesimi, non vedo. Ci va un po' di gente. Continua a vedere sta bene, sembra un po' strano a me, magari anche chi era per non farlo bene. Sì, ma non è zona dove vai tu, già, non ti preoccupare. È fuori zona, non è in città mercato, non è tutta quella zona lì. No, non è fuori zona, non si può mangiare più niente, no, questa è una cosa, hai capito. Non possiamo né mangiare, né fumare, né bere, nulla, non puoi fare proprio niente. Tutto quello che te mangi fa male, quindi gira gira, mangeremo insetti, facciamo prima. Andiamo, facciamo come fanno in India. Infatti dipende molto dal DNA. Non ho avuto un tumore, se non sono indiscreto. No, forse abbiamo ripreso assieme con Gianni. Gianni, cosa hai detto? No, non ho ripreso. Non avevi detto la tua? Sì, che ho mollato e c'eri tu sopra. O hai ripreso dopo di me? No, non mi ricordo, vabbè. Sì, molto dipende dal DNA, Quindi uno, se non ha il DNA... Insomma, dipende, è tutto scritto lì. Le malattie che avremo in futuro sono tutte lì, tutte scritte lì. E poi quando l'uomo sarà abbastanza bravo da modificare il DNA, riusciranno a eliminare le malattie genetiche, riusciranno a eliminare, a spegnere i geni, per esempio, che fanno venire il cancro, capito? Quei geni latenti, che poi prima o poi si attivano e fanno venire il cancro. Filtreranno la razza umana, la filtreranno e elimineranno un sacco di malattie, certo non adesso, ma fra 100 anni. Sei stato sfortunato, sei stato. Purtroppo è così, affidato a me. Quell'apparecchio di qui, di figurati. Bisogna sempre controllarli quando li compri quell'apparecchio. Se l'avventola non funziona, immediatamente fate trovare i soldi se la piglia a Napoli, capito? Evidentemente quello che ti aveva dato sapeva già il difetto e l'ha venduto subito, l'ha venduto senza dirti niente. Tu sei andato a modulare, non sapevi nulla e ti ha fottito. Pazienza. Succede così quando prendi roba a seconda mano, purtroppo, non sai cosa prendi. Vorrei comprare roba nuova oppure da qualche persona che conosci, tutto lì. Tanto, quanto l'aveva pagato? 300 euro con l'apparecchio. Quello che gli ho detto io, lui non lo capisce, questa è una radio. Sì, ma lo fai revisionare, già una radio che hai pagato troppo perché il suo valore è di 200 euro, l'hai pagato 300. Bianconi per revisionare MHF vuole 180 euro e ti costa 480 euro e ti ha salvato. Poi vendi lo giocatorito. 5-2! Per chi? La Juve 5-2! Rifletta! Aspetta, scusa, capite un attimo, aspetta, 5, meno male, dai, e se me la va, che stesse perdendo colpi, eh? O meglio che stesse rimontando l'altra squadra, invece si è riuscita, dai, meglio così. Non già pensavi che la Juve sta lì a guardare, sul 2-2, questa è la Juve che voglio io, che vuole Giulio, capito, 10 uomini, crederci, giocare, non guardare l'avversario e pensare che loro sono in 11 e la Juve in 10, questo è la Juve, questa è la Juve, questa è quella che piace a me. Sì, sì, Capri, tutto quello che ti piace, te lo puoi mettere anche sotto il cuscino quella radio. A me non mi piace e boh, io ne ho avuto 3 di quelle e non mi piacciono, ok? E io non l'avrei neanche pagata 300 euro perché l'hai pagata troppo. In più non l'avrei neanche revisionata, l'avrei messa lì come soprammobile, io. Poi tu puoi fare quello che ti piace. Io ti posso dire una cosa, che DHF per la 27, quindi questo, questi tipi, anche un 757, anche ICOM, anche molte, ma molte, molte radio che ho venduto io non ho mai avuto una lamentela. Quindi a buon intenditore poche parole, come ti avete Antonello, le radio devi comprarle da chi lo conosci e da chi sai che le radio le usa bene e soprattutto le fa la manutenzione, perché il 430 al 440 che c'ho io l'anno scorso, anzi il 440 l'anno scorso, il 430 quest'anno, ok, ho speso 180 euro per uno e 180 euro per l'altro, capito? Perché volevano revisionate e li ho fatti revisionare, senza aspettare che si guattino, oppure andando a prendere per il culo la gente, te lo vendo dopo un mese, dopo due mesi rimane a piedi. No, non funziona così. Dipende, se non c'è lavoro, a me io gliel'avevo mandato ai primi di giugno ed era pronto la verità a fine luglio. Io siccome ad agosto stavo lavorando, non mi interessava, l'ho detto guarda tienilo e me lo mandi giù a settembre, tanto è inutile che me lo mandi e poi rimane spento. E così ha fatto, un mesetto ci ha messo, dai. 28 giorni, 30 giorni, dipende, a volte ce ne mette 20, 25, 15, dipende dal lavoro che ha. E la spedizione? La spedizione ho pagato in tutto. Di no? Sì, mi 6-2, pianici mi. Io credevo fosse finita la partita. Mancano pochi secondi. Eia. No, dico, digli anche la spedizione, così sa sia riparazione che spedizione. Credo che costi un 15 euro, no, spedire un apparecchio così pesante, o no? Ehi, Antonello, ci deve essere allontanato. Sì, sì, ma sicuramente è successo così. Oh, Marco, quando gioca a Juve rimani in radio, perché tu porti fortuna, non sfiga. Ma ci stavo per dire, ma non dico niente, ancora non è finita. No, è finita, 6-2, bellissimo gol da lontano Pjanić, tripletta di Chedira, bella partita, questa è la Juve, a Udine, fuori casa, in 10, questa è la Juve, e Giulio questa volta non può dire niente, questa è la Juve Giulio Rollaro. Sì, questa è la Juve, è così che deve essere, oggi ha giocato di grande cuore, secondo me è il più bravo, il più che ha giocato meglio della Juve per me è Higuaín, nonostante che non ha segnato. perché si è sacrificato in una maniera impressionante, ha dato un apporto alla squadra estremamente valido, guarda. Per me Higuaín oggi era proprio in grande forma, anche se non ha segnato gol. Questo è un richiamo a Napoli e Inter, mi hai capito? Che la Juve c'è e c'è anche quando è fuori casa, quindi stiano attenti. Al Milan domenica, vabbè, il Milan domenica non ci fa né caldo né freddo perché non c'è il capitano, capito? Quindi senza il capitano è un casino. Sono contento che ha recuperato due punti dei cinque che aveva perso per strada, almeno quei due punti li ha recuperati. No, mia figlia ha detto che lì da non parlare italiano, e poi sei straniero, vai forza. Va bene, sono contento. È una Juve che adesso torna a vincere sicuramente, perché con la partita che ha fatto oggi, motivazione a mille. Va bene, avanti Marcolino, ma Natalino non c'è più, Gianni. Claudio, oh, aiuto, cosa devo fare? Mia moglie non me ne vuole dare, io gliel'ho chiesto gentilmente. Ascolta, nell'ultimo periodo, Natalino, bisogna usare le maniere forti, capito? La prendi, la leghi all'anta del frigorifero e ogni tanto apri e chiudi, capito? Guardandotela però, eh. Ah, così, io volevo metterla sopra la lavatrice e mettere la centrifuga, veramente. No, che si faccia lo buscinetto, usci, da sapigli. Allora no, che cosa brutto. Non è periodo, allora sta lì, c'è molta stanchezza e molto sonno. Vero Marcolino Condor, tu che sei esperto? Io già non lo so, ho qualche sintomo, ho preso l'aspirina, speriamo sia influenza. E occhio, perché qua sono uscito a portare il cane e sono rientrato immediatamente perché avevo la magliettina leggera. È un freddo, la temperatura ha abbassato un bel. Anche lì da te, Giulio. E lo vedi come fa? Ieri un caldo boia, avete detto, e oggi un freddo. Da un giorno all'altro, vedi che il tempo è impazzito. Sì, mi ero spostato un attimo. Sì, e pensa che stamattina mi sono tolto la maglietta leggera, ma mi sono messo una autunnale, perché sono uscito per un'oretta e sono rientrato, che devo dire che la giornata non era poi così tanto calda. Si stava bene con la maglietta autunnale. Oh, qua, chi sa ridare mai fame? Cosa ha detto Concetta? Chi ridare mai fa? Vabbè, dai, cercate di fare la pace. Ciao, già, fammi sapere se ti interessa quella roba che ti ho detto, ok? Perché ce l'ho io qua, ce l'ho io, adesso non ho avuto modo di attaccarla perché ce l'ho in mezzo, il 4.30, il 4.40, c'ho altre radio e sono pieno di nuovo, un casino. Adesso domani faccio posto, la metto e la faccio andare, capito? Fammi sapere, se le può interessare a tuo figlio, fammi sapere. Ok, ciao già, salutori, spero che tu riesca ad ascoltarmi bene con questo piccolo pezzo di ferro che ho. Anzi, me lo dici subito, poi ti lascio andare, dai. Ciao Gianni, intanto grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo alle prossime. Stasera non abbiamo potuto parlare molto fra noi perché c'erano le partite, dunque c'era la partita e allora abbiamo dovuto guardare la televisione. Ci sentiamo alle prossime, già, fatti sentire, tutte le sere siamo noi qua su questo canale, sempre dalle 5 in poi, e ci trovi sicuramente, basta fare chiamata. Ok, avanti Gianni, dimmi come mi ascolti. Ciao Capre, dai, alle prossime ci sentiamo. Diglielo a tuo figlio, se le interessa mi fai sapere qualcosa, se no la do a quel ragazzo che me l'ha chiesto. Ok, ciao, buona pizzata, alle prossime, vai Giulio. Ok, ciao di nuovo Gianni, grazie per il controllo, ci sentiamo alle prossime. Anch'io ti sento bene, ti sento bene, oggi una bella radio abbastanza potente. Alle prossime, ciao Gianni di nuovo, vai Natali. Ehi Giulio, non mi sente Gianni, ha detto che non mi sente, comunque lo saluto ugualmente. che prendi qua. Un attimo, dai, io saluto sicuramente che c'è gente a casa. Ci sentiamo, buona serata. Ciao Gianni, dottor Lung, dai, ci sentiamo. Anch'io adesso scendo giù per la cena, per cui vi saluto anch'io. Ciao Marco, ciao Claudio, alle prossime, commentiamo domani eventualmente, se coincide. Mi, il telefono che mi stanno chiamando laggiù. Ci sentiamo, ciao a tutti, buonanotte, ascolto fino a lì e poi chiudo. Ciao, ciao Giulio, vai, vai, vai, non fai attendere. Ciao Doppio Room, pensavo che non c'eri. Ci sentiamo. Buon fine domenica anche a te, alle prossime. Vai Marco. Ciao, ciao Giulio, buona cena, buon tutto. Ci sentiamo alle domani. Goditi la vincita della Juve, dai. Così farà Claudio. Ok, senz'altro. Ciao, ci sentiamo. Dammi la gola domenica prossima che gioco contro mio fratello, che lui è milanista, capito? Senza il suo capitano il Milan è debole, quindi sicuramente ne prenderà altre 5-6. Ma Massimiliano Bulldozer, non si è sentito? Sì, era entrato. L'ho sentito, ma poi non è entrato più. No, negativo. Gappa, gappa, ho letto riferimento alla radio, va bene così, regolata così, così la lascio stare in questa posizione, perché ancora non avevo trovato la posizione giusta, capito? Così va bene Marco, la mia? Eia, anche perché se parli di voce più alta almeno non dovrebbe strappare, mentre prima sì. Oh, c'ho la roba che mi sale su e giù, che non sia la vera influenza, ma ti volevo chiedere, chi è che ha esultato prima, quando ha segnato il 6 la Juve, chi è che ha esultato, tua moglie o tua figlia? No, mia moglie non frega niente del calcio, Ilaria è che è juventina, capito? Perché ha fatto un bel gol da 30 metri, pianici, l'ultimo del 6-2, capito? Quindi insomma, così. No, io sul 4-2 sono uscito a portare il cane, se Gudurrado era 5-2, se che entra di noi che sia a 2. Va bene, va bene. No, no, sono a 30-40 centimetri, sto parlando anche a voce abbastanza grossa, non bassa bassa. Volevo fare appunto questa prova, in modo che la regolazione è questa di questa radio. Così lo so e la lascio stare, capito? Perché ancora non avevo provato. Perché prima stavo usando l'85, adesso ho rimesso il 60 e quindi chiaramente col 60 spinge un po' di più. E allora ho dovuto abbassare da 1,5, ho dovuto mettere a 1 il Michigan, capito? Eia, chi c'è rimasto qua alla fine? Natalino, Gianni ha chiuso, Giulio ha chiuso, Pomponi è sparito, chi c'è qui, chi c'è rimasto? Non lo so chi c'è rimasto, Pomponio non ha chiuso, non ha detto niente, se non si è allontanato, ma era chiamato per scendere giù dal fratello, Sì, sicuramente è per quello, a quest'ora mangerà il fratello. Bene, allora c'è Natalino, dai. Beh, come ti senti Natalino? Pigliati un'aspirina, mi. Ah no, giusto, hai detto... No, hai detto che non puoi prendere antidolorifici, ma l'aspirina prende già cardioaspirin. E quindi va bene così, va bene anche contro influenze, no? Io me ne sono presa una, appena mangiato. Ai primi sintomi prendo sempre l'aspirina, è la cosa migliore per me. Speriamo di no, dai. Se no che palle stare 2-3 giorni a letto, vabbè, non cambia nulla, dici. Tra stare a letto e stare a letto, però sai, stare a letto e stare male è brutto. Sì, infatti. No, ma adesso siccome domani mattina devo uscire presto, devo andare all'INAM, poi devo andare al CAF a risolvere il mio problema. E me la prendo adesso, una tachipirina mi prendo. Eia. Purtroppo, chissà perché, vabbè, correnti ce ne sono sempre qua, vabbè, riprendi Claudio un attimo. Gappa, stavo guardando i gol della Juventus, ok. Quanti ne ha fatto? 7 ne ha fatto. Sì, Antonio, 6-2, stava perdendo 1-0, poi ha fatto 1-1, 2-1, poi ha pareggiato di nuovo 2-2, dal 2-2 è iniziata la catena dei gol, ha pigliato 4, va bene, va bene. Ti ha chiamato poco fa, dove sei andato? Al telefono mi ha chiamato, non so, Mario Chile. Sta ancora vivo, Sì, ancora vivo, A Dodo dice che è stato lì e se ne è fuggito perché c'era un freddo adesso, da morire. Al Lido di Platamo, e non sei andato a fare, lo guardò. Al Lido, il coso, supermercato, quello che c'è qui vicino. Ah, ho capito, al Lido. Ah, Lido. Freddo c'è, Antonio, io sono uscito a portare il cane, ti posso dire che c'è freschetto, però è una perturbazione in passaggio, dai, niente di particolare. Vabbè, l'importante è che poi no, cioè adesso fa freddo, poi nuovo fa 25 gradi, se va di così anche non sempre, siamo fregati davvero quest'anno mi. Non passo. Ci crepa come nulla, ci crepa. Perché il corpo non ce la fa, capito? Dal caldo e freddo, a stare tranquillo. Lo so, non ce la fa, no. E cosa vuoi fare? Comunque, piovere deve piovere, se no siamo incasinati, non c'è acqua da nessuna parte. Io ho due impianti che sono asciutti, non riesco neanche a gestirli più. Se non piove è un casino totale. Va bene, va bene. Natalì, riprendi. Sì, adesso me ne vado pure io che mi corro, domani mi nasce Bisacchi. Sì, figurati io. Ancora gli ultimi ritocchi, mi c'ho tutta la settimana, venerdì poi c'ho appuntamento al sindacato, poi devo andare al commercialista a portare le ultime tre buste paghe che vuole vederle per farmi i conteggi. C'è un sacco di cose da fare, però questa settimana devo camellare forte. Poi la prossima sicuramente sarò in ferie, vediamo cosa riesco a combinare, perché mi servono giornate intere per potermi sbrigare questi ultimi ritocchi, dai. Avanti Marco. Liga. Antone, ma questo chi viene? Chi è quello, quel signore che abbiamo visto al bar, al distributore? Eia, ha già compreso. Oia, che palle però. Speriamo che ci sia qualcosa in TV almeno stanotte da guardare, perché è stata una giornata un po' brutta. Una giornata fredda, ero tutto isolato come ieri. Però secondo me davvero questo è il preavviso me della cosa in arrivo. Mamma mia che palle. L'unico segreto è, Marco, non stare in mezzo alle correnti, e quando esci ti devi coprire, capito? Perché se non ti copri è un casino. Vabbè, tanto non è, noi che siamo vicini la radio va bene, sì, che forse sono riuscito a trovare la regolazione giusta alle 4.30. E a voi, stai scendo benissimo, stai scendendo. No, perché noi siamo vicini, capito? Che Marco appunto mi ha fatto una correzione, poc'anzi ha fatto bene a dirmelo. Così non sto tocca e ritocca, devo tenerlo a uno, era uno e mezzo, e se sollevo la voce strappa. Devo avermi toccato quando l'ho mandato a revisionare il coso, il Mickey Game sicuramente, lo slider interno. Ma già devo averlo segnato da qualche parte, me lo rimetto come era prima, vabbè, chi sta in partenza, quindi lasciamo così, si arrangia il padrone. Avanti, ciao Natalia, allora buona cena, buon tutto, alle prossime, ci sentiamo, saluti a Concetta e fai da bravo, capito? La sarà Drumì, lo so che c'è freddo, quindi ti piace coscia di donna, però fai da bravo, capito? Ciao cantato, sì. Da Drumì due. Ci ha cantato, Zé. Allora. Vi sto ascoltando, fate da bravi. Ti ho detto di non agganciarti, lasciala stare a Concetta, non ti agganciare. Se hai problemi siediti sopra la lavatrice, tu però, che ti passa il bollore. Senti poi Concetta adesso. Ho detto Conce, quando c'è il bollore, Natalino, no, capito? Quando le sta venendo il bollore, lo fai sedere sopra la lavatrice e attacchi la centrifuga, usci in bassa il bollore. Oh, se vuole la lavatrice che ho io, mi, che c'ha gli ammortizzatori scassati, non sai come cammina. Dovresti vederla, sembra che ci sia molto picco in funzione. Bene, mira, tra l'altro mi ha inventato una cosa, mia suocera l'aveva comprata nuova, poverina, la lavatrice, che adesso ce l'ho io, no? Perché la mia era più vecchia, quindi l'ho data e mi sono tenuto quella sua. E, ultima generazione, una Zoppas, l'aveva pagata, mi pare, 700 euro. E con le ruote, perché dice, la voglio con le ruote perché io la sposto per passare la scopa dietro, malata della pulizia, no? Passare la scopa dietro. Quando l'ha comprata, si è dimenticato, mi ha detto, devo bloccare i ruoti. Cazzo, ne ha voluto anche andare via in centrifuga, che c'è la matrice. Pazia, cazzo, devi via vista l'usalone. E mi chiamava a me perché allora io abitavo sopra. Ah, chi va la lavatrice, partenne, ah, chi ha l'ascensore. Io cosa, mi mette i blocchi, o io via, con le ruote, a me cambiava lo stesso, anche perché ci sono le motivazioni da cambiare. È nuova, non è che sia vecchia vecchia, ci avrà sino 4 anni, forse 5, non di più. Adesso sono andato a chiedere l'altro giorno, quando dici uno, gli ricambio e torna come nuova. Anche perché più che altro io la caricavo, era 7 kg, però il timone già lo sai, quando lo carichi poi con l'acqua, raddoppia. E quindi a forza di vedi, sono partiti gli ammortizzatori e fa un casino adesso, quando va in centrifuga è la cosa allucinante, sembra uno sbattitore, sembra, per il cemento. Va, cuomani. Via, Lucariello, mi. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato, avanti. Ciao Claudio, vabbè. Purchi, vabbè, buon buon. Ciao Luca, ben sentito dopo tanto. Ho ritato già entro il 27, poi dove avevi oggi? No, oggi ero in campagna. No, diciamo che oggi la giornata è c'è fresco, dai. È freschetto. Abbiamo fatto un po' di, cioè ha fatto un po' di capoccolo arrosto buono, mamma mia, è la sua morte, e niente di che, no, sono rientrato adesso a casa, tanto di cena, fatto la cena alla casa di lei, adesso aspetto alle 10, anche 9 e mezza, faccio appunto la mano, a mamma mi si go. E fai beh, me la sei tranquillo, andare. Avanti Marco. Vabbè Luca, non sei uscito oggi. Non sono uscito. Tu conta, ho dormito a casa di lei, poi sono venuto qua stamattina per fare delle cosettine in casa e poi sono risceso in campagna a mangiare e sono rientrato ora. Scusa, più in giro. Beato te, hai visto la differenza di temperatura da ieri a oggi? Incredibile qua. Incredibile, molto freddo c'è. Sì, io di solito sono sempre le maniche corte, ma non mi fido, perché a me adesso mi crepa subito. Avanti, grazie. No, mi, Lugari, anch'io ero, mi sto mettendo la giacchina del pigiama leggera, ma maniche lunghe, capito? Perché non voglio cadere nel tranello. C'è freschetto, poi io sto sempre qua con la finestra aperta, capito? E quindi c'è freschetto e va bene così, dai. Ok, ah, che bello, esce qua, vediamo la gadria, ok, avanti Antonio. Via, so che no, cosa c'è tu qui? No, sei scemo che ti porto giù, no? Avanti, così ti spari. Non ti porto, c'è freddo. Adesso comincia a miagolare, fai... Uffia, che cane morto questo cane. E già sei inteso, sì, che la mia golena. No, Filippo invece quando deve uscire va e si mette vicino al guinzaglio che ha preso dietro la porta. Capito? E si può gianchivi, quindi so che vuole uscire. Oppure viene, inizia a leccare, a rompere le balle col muso, a muoverti, a spostarti. E allora lo porto. Infatti poco fa me la prendendo la partita. l'ho dovuto portare. Bene, bene, bene. Ok, avanti Marcolino. Eia, vabbè, sono senza parole. Come mai c'è sta parola? Starce li hai? No, dai, non ne ho più voglia, mi sta venendo la bioccole dopo mangiato, peraltro. E mi sa che mi ritiro in silenzio, mi accendo la TV e buonanotte al secchio. E buonanotte alle cantalori. Vabbè, avanti lui. A me non si può fare. Ma tu non mangiate a pranzo in campagna. Io ho morto tutto di guano, mi ho dormito, il mangiare è una droga, ti fa da sonnifero, vabbè, tu, mi è morto, poveraccio, un amico che conoscevo da tanti anni, non dico un gigante, ma abbastanza, c'era piazzato bene. Infatti quando ho letto il suo nome, Giorni, pensavo fosse un altro, poi c'è questo ragazzo, poveraccio, qua. Praticamente da piccolino ho avuto una malattia brutta e sono riusciti a bloccarlo questo, il tumore, no? E dopo 34 anni si è ripresentato alle ossa e se l'ha mangiato. Beh, quindi ed è morto? Allora. E quando questo? È morto ieri, mi sa, ieri. E sciogliere. È un bel casino forte. Ma è un casino, E anche a me, l'altro, quando era poco, un carissimo amico lo stesso. Perché l'idea è che non si sa più di cosa dobbiamo fare, sinceramente parlando, non si sa più cosa dobbiamo fare. Vabbè, avanti Antonio, riprendi. Lo so, purtroppo così, ci vuole nulla, non ci vuole, però per una cosa o per l'altra, se era qualcosa deve capitare. Figurati, un giorno io succedo al centro storico, mi sono bevuto una birra, mi sono trovato lì a pronto soccorso, mi sono svegliato, addirittura avevo zero, ho preso i piedi, mi fa le colorare, dove sta andando? Ho detto, stando in bagno, ho detto, già vengo subito, ho già via il mezzo che è andato, ho fatto tutto via Milano a piedi, figurati. Figurati me, Marcolino, e tu eri preoccupato, hai visto? E invece Antonello non ha dei problemi. Ma come mai sei svenuto? Cos'era ghiacciata la birra? Non l'hai detto, no? Non l'hai spiegato, no? Non so, io mi ricordo solo che stavo bevendo un bicchiere di birra e poi mi sono ritrovato svegliato, quando mi sono svegliato lì a pronto soccorso. Figurati, al centro del Randone mi ha fatto questa infermiera, non vedo nessuno, mi dice rimanga lì, ti aspetta che sono andato a pisciare, ho detto già vengo subito, ho detto già non si preoccupi, ci via di bene, me ne sono andato, ci ho fatto tutto via l'Italia, via Milano a piedi, poi sono andato a casa, l'unica cosa che c'avevo era un graffio nella gamba e sono caduto in pratica con le mani lavate, c'avevo appena appena viola, basta, così. Poi il resto era tutto a posto, non c'avevo nient'altro, fu stato a mano sbronzo, sarei caduto minimo dal coso, dalla barella, ma siccome ero sano, evidentemente ho birra ghiacciata o cosa ne so che... Sì, ma non ti ricordi chi è che ti ha portato all'ospedale? Cioè non ti ricordi niente? Nulla, non mi ricordo niente. E mi è successo l'attore sagittario, mi è successo dal circolo suo. Beh, non ti ricordi chi è che ti ha portato via? Cioè ti sei trovato direttamente lì al pronto soccorso senza praticamente sapere chi è che ti ha portato. E a volte succede, bel casino. Avanti Lucaria, riprendi. Casino. Cioè, ho capito, si è bevuto una birra e si è trovato al pronto soccorso, ho capito. Fattore sagittario, stavo bevendo una birra. Capito? una bella fredda. Ho parlato, dopodiché non mi ricordo, mi sono ritrovato tranquillamente a pronto soccorso, mi sdraiato nella barella. E quando mi sono svegliato, cosa ci faccio qua? Ho preso il piede e sono andato, non ho chiesto niente a nessuno. L'infermiera dice, dove stanno andando? Dove stanno andando in bagno a fare la pipì? Lui dice, vuoi venga qua? Mi ha detto, sì, sì. L'unica cosa che avevo era un graffio al ginocchio, che mi avevano in ambulanza, mi sono visto i pantaloni che eravano aperti con la forbice per controllarmi, capito? E basta. Per il resto non c'avevo niente. Sono fatto tutto a piedi, figurati. Da lì a casa. Sì, però, se ti porta alla pronto soccorso così, qualche controllo dovevi fare. Metti che fosse il cuore che ha avuto, non lo so, magari la birra ghiacciata ti ha fatto una vasocostrizione immediata e quindi hai avuto un mancamento. Cioè, non si va via, no, quando svieni e non sai manco come ci sei arrivato. Avrei fatto un controllo se il cuore ti ha portato a posto. Se tu fai di testa sua, buon viaggio. Che sto dicendo? Dopo, guarda, la settimana sono andato al medico, te l'ho detto, dalle sole. Ho detto, guarda, mi è successo così così, mi ha fatto guardare, spero che ti controlla la pressione, dice, eppure sei tutto a posto, non c'è niente, infatti dice, le analisi del sangue, le ho portate, l'unica cosa che c'è, appena appena è quello che sono alto e basta, mi ha detto. E poi vabbè, quello ho detto, ce l'ho perché, gli ho detto, era 4 giorni, ho detto, mangiando, ho detto, carne, è logico, ho detto, che sarà il colesterolo, ma dopodiché gli ho detto, scende subito dopo una settimana, non ci vuole molto, gli ho detto, non ho detto, non c'avevo niente. Sì, ma è un asino, perché ti doveva far fare un elettrocardiogramma, capito? No, misurati la pressione. La pressione ricorre, già di misurare. Sì, vabbè, magari veniva a fare un elettrocardiogramma o qualcosa del genere, quello sono d'accordo anche con te. L'unica cosa che soffrivo molto era di cose, di cervicale, mi quello. Mal di collo spesso e poi mi veniva da questa, cioè pensate che ti gira la testa quando prendi freddo, adesso non lo sta più facendo per il momento, quell'effetto lì, meno male. Ma prima non pigliavo freddo o c'era vento, guai, non potevo neanche uscire di casa perché si cominciava a girarmi la testa. Allora dovevo mettermi in volta e dopo un'ora e mezzo che potevo tranquillamente, per dire, andare a farmi una passeggiata perché tornavo come prima. Di cervicale molto soffro. C'è la cervicale l'onfia. La cervicale è maledetta, mia moglie è lo stesso, soffre di cervicale, a volte capogiri, nausea e deve stare a letto. È un bel casino cervicale, buzzinoso la regga, però se tu praticamente sei svenuto, qualcosa è successo come ti ha detto Marco, capito? Qualcosa è successo. Quindi la prima cosa da fare era da organizzare un elettrocardiogramma e vedere se tutta la parte del cuore era a posto. Capito? Vabbè. Avanti, Lucaria. Non gli bugi così, perché adesso a te ti hanno preso in considerazione, hanno i tuoi dati sicuramente, non ti puoi andare così. Se non mi hanno chiesto niente, c'avevo il portafoglio, se mi avrebbero chiesto i dati, avrebbero preso la tessera sanitaria, nulla, non mi hanno controllato nulla, mi sono controllato il portafoglio, dentro c'era tutto, non mi mancava nulla, addirittura c'avevo anche la carta di credito, capito? Non mi hanno controllato nulla, ma ero solamente seduto lì, attesagliato lì, perché ero seduto, seduto lì e mi sono svegliato. Capito? Senza nessun dolore, senza niente, l'unica cosa è che avevo questo graffio al ginocchio, uno e basta. E poi mi facevo come sono caduto in avanti in pratica, con i palmi della mano c'avevo appena, i palmi della mano appena viola, ma 2 giorni dopo che è sparito tutto. Ma stavo bene, la verità stavo bene, poi sono andato al medico, gli ho detto, così così mi è capitato, dice, senz'altro, dice, con la birra, dice, che ti ha dato, dice, la ghiacciata, e ti ha fatto un blocco di stomaco. E per quello che si è svenuto, tutto lì. infatti non la bevo più, mi l'ha congelata da frizzare così, io quando me la presenta no, mi tira. Vabbè, ma se fosse successo a me, io se mi sveglio al pronto soccorso mi faccio fare tutti i controlli diritto, non è che me ne vado così a piedi a fare chilometri. Metti che ci fosse stata una cosa al cuore, a quest'ora ci saresti morto. Per fortuna forse non era una cosa al cuore, però se io mi sveglio da nulla, mi sveglio al pronto soccorso, mi faccio fare tutti i controlli possibili, ci mancherebbe. E già lo so, quello che mi scrivere mi sono andato, invece la verità. E non c'ho niente, cosa ci faccio qua? Ho preso i piedi e me ne sono andato. Perché stavo bene, no? Non per l'altro. Figurati tu. Poi ho detto, se ci vado di domani a tirare, questi mi picchiano come minimo. Quindi i dati miei non l'hanno preso, se no mi avrebbero al limite telefonato, rintracciato, capito? Invece non ho appiato dati per niente, evidentemente non ero appena entrato, cosa ne so, credo. Io ho saputo dopo una settimana, sono sceso all'attore e mi fa... Perché è stato, ma sono caduto qui, sono caduto qua a Catappato, no, sei caduto, dice, appena sei uscito dal circolo, dice, fuori, mi ha detto, basta. Dice, abbiamo chiamato l'ambulanza perché è svenuto e poi ti hanno portato e basta, tutto lì. Mi ha detto, come stai? E tu, così così, gli ho detto. Sono arrivato là, non mi ricordavo nulla, mi ricordavo solo, diciamo, il bicchiere in mano, stavo bevendo la birra dentro e basta. Tutti fuggiti. No, sono qua, stavo controllando il cucciuccio. Mi stavo prendendo il telefono per mandare un messaggio a Massimiliano. Mi sa che è fuori Massimiliano, mi stavo oggi su Facebook, era in giro con qualcuno. Lui, genio della lampada, e che si dice? Boh, che si deve dire? Sempre tutto uguale. E solo Geni l'ha fatta l'Udinese pure il Gaza, in 10 poi tra l'altro. Già va bene così, già va bene. Avanti, Marco, riprendi. Ciao Eugenio, se mi ascolti. No, non arrivo l'anno. Oh, con 4 volte no. Arriva abbastanza anche a me Eugenio. Ciao Eugenio, se mi ascolti. Non mi siete mai cammexati, sei qualche buco. Ma se ti ha risposto? Io ho già inteso. Ma chi è Eugenio? Eugenio, non hai sentito Antonio? Non lo senti Antonio? No, non ho sentito per niente. Questo segnale per la pera sono il basso, ma è basso, me lo vuoi? Sono al portatore, stavo scendendo al lavoro, così oggi. Cazzo Santiago, è qua, siamo attaccati. Cazzo c'è, baracchino sordo. E oggi dove sei al portatore, stavo scendendo al lavoro. Stavo scendendo dal porto, al portatore, hai capito? Segnale 1 mi arriva a me, te lo sto dicendo, non so perché. Vabbè, tu sei più alto di me, sei più aperto, quindi io sono tappato da questi palazzoni. Santiago, è qua, a te Marco, ti arriva. Marco RM, riesco a malapena a capire cosa dice, però bene o male si capisce, più male che bene. Meglio. Vedi, ti abbarai, almeno ti sento. Cosa è, oggi? Oh, io quasi andrei, dai, tanto adesso... Ma tu vuoi stare in radio, dai, sentiamo domani, influenze permettendo, dai. Ciao Antonello, ciao Claudio, ciao Eugenio, Eugenio, se mi copi, a domani, dai. Ciao Marco, dai, a domani, buon fine domenica, buon tutto, alle prossime, ci sentiamo domani, dai, stammi bene. Avanti Antonello. Ciao Marco, ci sentiamo domani. Adesso qui d'occhio vado a cenare, poco fa ho sceso la cena a Gian Piero e sono a posto. Questo devo stare allerta perché oggi ha fatto la pipì, sembrava Coca-Cola di colore, cazzo, non mi è piaciuta per niente. Poi, meno male, si è schiarita, è diventata più chiara. Fate detto a Giovanna, nel caso si senta male, di chiamarmi subito, così scendo giù. Vabbè, sentiamo al limite domani, Clara. Ehi, Antonio, dai, ciao, ci sentiamo domani, stammi bene, buonanotte anche a te, saluta Giovanna, l'ho visto l'altra volta all'MD, ok. ci sentiamo, dai, e Eugenio riprendi e poi io vado a cenare. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao Eugenio, ciao a tutti, buona cena e buonanotte, ciao, a domani, ciao. Ah, anche Luca c'era. Ciao Luca, dai, non mi ricordavo che c'era anche tu, dai. Credo avessi già chiuso. Ciao a tutti, ciao, a domani, ciao. Ciao, ciao a tutti ragazzi, dai, ci sentiamo domani. Anch'io chiudo, dai, ciao, ciao. Esco più ritardato. No, già l'ho salutato Eugenio, però sto salutando anche a voi, capito? Riga, dai, sentiamo. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao a domani, dai, ciao a tutti, buonanotte.